Pathfinder Campus. Grazie, mi chiamo all'ordine. Siamo partiti, vi aiuto io. Da quando, io che sono sicuramente esentato, visto che l'ho fatto l'altra volta. Da quando c'è sta regola? Siamo partiti da... Da che abbiamo, ci siamo scontrati contro i cinque faraone e i suoi quattro amici, gli archivisti della biblioteca. Ma già è vero, siamo partiti di... No, aspetta. Simone, che già sta roba, già sta roba di nuovo. Insomma, vai Simone. Già sta roba di nuovo. Tu non c'eri. No, io mi ricordo che l'unica roba che ho visto è che vedevi una figura nella biblioteca. No, caro mio, non avevi passato. Abbiamo proseguito nella non biblioteca. Non avevi passato. Esatto. Abbiamo proseguito nella biblioteca e poi siamo stati abbiamo incontrato la figura circondati da quei bastardi lì. Ci hanno attaccati e li abbiamo shottati. 11 totali. E... Vai Simone. Sono morto, ma ho fatto un critico. Dai. Ok. Sei vivi? Sì, circondati. Siamo circondati, vabbè, questo faraon che appunto su questi suli qua, bibliotecari, sono stati tutti menati, bacche intellettuali. Sono dei bacche intellettuali. Questa è la prova che i muscoli dico sul cervello ancora una volta. Che non sapevo quello che era successo fuori. O quando faceva finta. Esatto, non si capiva. Però loro ci hanno detto probabilmente un po' seduti, quindi in qualche modo si può poi abbiamo scoperto che sia per quello. Non l'abbiamo scoperto. Sì, l'abbiamo scoperto. Vai avanti nella storia. Abbiamo diciamo ammazzato tutti, tranne uno, abbiamo tutto in vita. Abbiamo tentato di farlo parlare in qualche modo. Ah già, è vero, sì, c'erano le piante. Esatto. Abbiamo tentato di farlo parlare in qualche modo, ma sembrava insomma essere apatico, insomma, non provare sentimenti, così cosa. Allora abbiamo continuato a ispezionare la biblioteca e in una sala enorme, dove prima vi avevo urlato, ma fortunatamente non sono svegliato niente. Non ce la conosco più sei. No, sono entrato in questa sala enorme, dove c'erano dei libri, sempre la biblioteca. La parte della biblioteca, ma il soffitto esatto. Era pieno di piante carnivore sostanzialmente, non mi ricordo il nome della cosa. Centinaia di queste piante. Mi ricordo un nome difficile. Grandi. Si chiamano Body Thief. Grande cioè come ladri di corpi si chiama. Grandi come dei piccoli edifici. Esattamente. E grazie diciamo al corvo di Abram, perché Abram non lo sapeva. In realtà se n'è accorta a Damasco e sì, il mio corvo ha spiegato che queste piante qui sostanzialmente quando di un avversario, cioè il nemico, che poi adesso mi sembra inconscio. No, in pratica finiscono nella loro pancia. Ah, lì diciamo può divorare il loro possono divorare il loro avversario. Se il loro avversario muore all'interno dei loro per via dei succhi gastrici. Ma quindi la biblioteca è altissima. Sì, è molto alta. Ah, come tutte le biblioteche antiche fighe che si rispettino, cioè gli scaffali che si innalzano per si perdono nell'oscurità. Esatto. Invece diciamo che queste piante fortunatamente dormivano, siamo usciti a superare. Aspetta, comunque sì. Cioè in pratica se tu muori all'interno del loro stomaco, no? Cioè stomaco, tra virgolette, no? E rinasci come loro servo, che però conservi a tutti i loro ricordi, fondamentalmente. Cioè come... tutti i tuoi ricordi. E quindi già in pratica dei loro, una sorta di invasione degli ultracorpi, ecco. La tua volontà è piegata completamente al loro volere. Allora, queste 100 piante le abbiamo schivate, tranquillamente passando zitti quatti, nonostante qualcuno abbia tirato giù un paio di librerie, tirando esatto. Su così silenziosamente. Mentre cazzeggiava con Baka. Esatto. Che ti ha giocato? Che abbiamo tirato un basso tiro di... Allora diciamo che abbiamo fatto anche io lo spin e l'ho fatto cadere la libreria. Esatto. E siamo entrati in un'altra sala. Però non si sono svegliati. Sì, esatto. Siamo entrati in un'altra stanza e hai fatto una cosa... Hai fatto la cosa più figa della campagna. Sostanzialmente abbiamo usato il booking point. È stata un'idea di mia. Ti ho fatto accendere una tua freccia con le mie braccia fiammanti. E hai acceso tutte le torce della sala con una sola freccia. Poi questa la freccia te l'hai messa dentro. Però hai giocato un key point. Abbiamo usato un key point ben usato, esatto. Cioè, ti immagina quanto è figo, tu vedi la freccia che gira e poi trovi quella. Penso io. E alla luce delle torce... Come si chiama? Sì, c'è una roba. Trick shot. E alla luce delle torce abbiamo trovato che Piantone. Tre temibili nemici, Piantone sveglie. Che abbiamo potato. Che abbiamo potato, ma non senza dolore, perché ci hanno abbastanza massacrati. Eravamo tutti messi male. Che attacchi fanno queste piante? Ti tirano delle lianate, ma soprattutto fanno dei raggi di acido. Che non vedi. Che facevano abbastanza male, hanno colpito infatti duramente anche Avram. Che Avram. Che erano dei raggi di sì, no, dei raggi. Sì, dei raggi. Cioè, e poi cioè, le loro liane erano abbastanza umili perché si allungavano è per vero. Tutta la stanza quasi. Comunque sono molto grandi come piante e ti stanno per uccidere. E tra l'altro le consentivano loro di evitare gli attacchi a distanza. Esatto, i primi quattro tipo li deviavano. Quindi diciamo che sia tu che lei, cioè sui primi attacchi non eravate molto... È stata tosta come battaglia. Sì, è stata tanto, devo dire. Poi è fatto un giardiniere. Non ci sono io. Prima siamo usciti, ci siamo curati, perché questa ultima pianta, come tutte, aveva la caratteristica che si muoveva di 5 piedi, che non poteva uscire dalla stanza perché era troppo grande. Era troppo grande. Quindi siamo usciti, ci siamo allontanati, ci siamo curati con le bacchette, siamo ritornati, bam bam bam bam bam bam. Ma tu, cosa è successo al nostro? A te ti ha comunque mangiato, perché fai tutto di salvezza. Era tardi, prova di CMB, è una prova, vabbè, comunque sì. Ah, è una prova di CMB, di grappoli sostanzialmente. Quindi la bella te manda e ti ha ingoiato. Tu per fortuna... Ah, è vero, lui due livelli negativi. Due livelli negativi, sono gli iscritti. Erano gli iscritti prima che lui infedelmente li cancellasse. No, ci sono ancora iscritti. Comunque tu adesso hai meno da tutti per okay, dire tutti gli iscritti. Bravo. Tu hai messo la sua pancia, hai superato... ti sei sentito le tue energie lasciarti, abbandonarti, ma con uno sforzo di volontà sei riuscito a mitigare i danni. Che altrimenti sarebbero stati 4 livelli negativi, invece siete solo 2. Quindi prendi meno 2 al tiro per colpire tutti i futuri tiri di salvezza. Come? Per quanto? Sono permanenti. Sono permanenti? No. Ah, allora... Più facile curare, però... Io non sono ancora guarita. Cioè, lui mi deve fare un incantesimo. Cioè, c'è Bianca al mare, tu mi fai un incantesimo. Non dire. Ma io sono pianta. No, no, è morta e ti ha mostrato. Tutto avvolto da me. Sì, ma c'è la restoration. Io non l'ho... E muco di pianta. L'essere. Meno 2 al tiro per colpire, meno 2 al tiro per colpire. No. Restoration mezzo poco. Livello curato. No, questo può essere un meno cioè, 4. Tu cosa hai di problemi? Meno 2 livelli. Quando sono morta e rinata. Non è vero. Niente. Anche lei. I tuoi sono permanenti, i tuoi no, si curano di più. Quando sono rinata avevo 2 livelli, ho ancora 2 livelli. E i tuoi sono permanenti, quindi solo con Restoration. No, con Restoration si curano, ma nessuno Restoration perché nessuno è un chierico. Giusto, appunto, un altro motivo, un'altra ragione per salvare Azalea è che ma sono incantesimi buoni, lei è malvagia, non può lanciarli. Quindi. Restoration ha un descrittore sì, buono. Ma scusi, perché? Vabbè, comunque vediamo. Guarda, secondo me ce l'ha, cioè quasi al 100%. Come fai a curare questi due livelli negativi tu? Cosa ti serve? Ma Yal, cioè, Yal c'ha del scrittore good. E i cattivi non si curano tra di loro? No. I cattivi muoiono, quindi non si curano. Beh, non è i cattivi, sono i chierici malvagi che hanno restrizione. Non possono lanciare incantesimi con il scrittore buono. Guardo negative levels. Così come i chierici buoni, non posso lanciare quelli. Quindi dopo diciamo questo combattimento siamo lì fermi, ma abbiamo deciso di salvarci. Ma c'è anche un malus a ITF. Livelli negativi. Sì, quanto? Tipo... Adesso vediamo. Non dire, certo. Allora, for each negative level a creature has... accumulative meno 1 agli ability checks, attack rolls, combat maneuver... Combat Manover Defense, Saving Throw e Skill Checks. Quindi tutto quando lanci un dado a 20 praticamente sempre. E anche contro anche la CMD, quindi sono quando non benissimo. Sì, c'è scritto. E poi in più prendi hai il massimo di livelli di punti ferita 5 in meno per ogni livello negativo, quindi 10 punti ferita massimi. Anche tu. Anche lei. Inoltre Beh, cosa sai mai? Gli incantesimi. Lo so che ne devo fare di meno. Praticamente. Ne lanci 2 in meno? Sì. Sì. Cioè, per ogni slot. Per ogni slot. Madonna. Vediamo. Non so. The slot is one level lower for the purpose of level depending variables. Minchia. Quindi c'è anche lo spell. Come si chiama? Solo gli incantesimi? Sì, il caster level. Il caster level. Meno 2, sì. Minchia. Allora, creature with temporary negative levels. Vabbè, però non conta col caster level fisso, direi. ogni giorno hai un... perché non sono più variabili. Ah. Ogni giorno sono silver hai un tiro salvezzi, hai un tiro salvezza per toglierteli. Infatti, oh, ti la CD è la stessa. Toglierteli tutti oppure toglierteli uno? Credo che uno per ogni livello. Negativo. Ti fa un TS per ogni livello. Va bene. Poi dice chi ha livelli negativi riceve un new saving throw to remove. Forse tutti a gruppi di quanti ne hai subiti, cioè, non so. Ormai so e gli ho segnati quelli che posso usare. Tu rimani negativi level. Sì, sì, sì, così. Quindi tu, nel suo caso entrambi con TS solo. E lei no però. Lei no, perché i suoi sono permanenti. Ok. Quindi quando mi sveglio tiro un dado da 20 con la CD. E la CD era quella che ti aveva colpito, che era tipo 27, mi pare. Cos'è che sono? Era Tempra. O Will, non mi ricordo. Aspetta, quindi vuol dire che non devo aggiungere. No, è Tempra. Se lei fallite Tempra, se Will è difficile. Ma come ho fatto a fallire? Sì. C'avevo due anche versus Slap. Esatto, devi metterti un meno due a tutti i tiri di salvezza, però mettitelo nei mischi. Ah, su. Ah, perché in realtà io queste poi devo calcolare. Esatto, perché io non voglio di fare caster. Supernato. Sì, non ci voglio stare lì a far caster per quello. Non è a Tempra, dai. Mi sa che è a Tempra perché l'hai fallito. L'ho tirato io il dado, se io tiro alto, quindi è il caso. No, 27, guarda che l'ha 27. Superato, eh. 27. Ah sì, è vero, l'ha superato. Guarda che l'ha superato. Ti ho salvato la vita. Sì, 27, è una CD altissima. Ma va, la CD altissima. Fino. Ma aspetta, quello dei danni, dici? No, no, il primo l'ho superato, quello per mangiare. Ma quello lì no, è impossibile. No, la DC dei danni della pancia sarà la stessa, perché non basate così. 27, quindi qua c'ho 12. Ok, ragazzi, ok. Quindi? Quindi, niente, abbiamo finito questo combattimento e non so se volevamo dormire o no. C'era una porta oltre le piante, cioè non è che sì, dormiamo la stanza. Dove allora, secondo me possiamo non dormire. Non so come sono messi loro, come... Io sono messo bene. Sì, tu mi ricordo. Ma lei forse ha usato un po' e anche lui ha usato qualche key point. Io ho usato 3 key points. Sono sempre pochi, comunque. E non li ha usati? No, io ho usato 3 key points e in più sono un po' felice. E due livelli negativi. I livelli negativi però mi sembra il caso. Cioè, vabbè, no, giusto, niente, come ho detto. Io andrei avanti. Perché altro perché se quando dove poi il TS, capito? Se sì, lo so, TS, ho capito, ma se ci dobbiamo fermare ogni battaglia... Vabbè, certo. No, cioè, beh, certo. Avete ragione che se dormiamo prendiamo un nuovo livello. Quello è un gran buono, è un gran bonus. Ah, perché non c'abbiamo un nuovo livello. No. Non è come Final Fantasy. Vabbè, solo perché lancia gli incantesimi, fondamentalmente. Perché? Cioè, perché deve recuperarli. Ah, però... i talenti li prendi quando abbassi il boss. Ecco, diavolo. Uccidi mostri. Io ho sempre inteso che solo abitanti si ricaricano dormendo, non le hai subito. Cioè... Ah, sì? Sì, sì, sì, certo. Ah, io pensavo tipo come Skyrim, sai che devi dormire. No, no, no. Ma no, tipo, cioè, scusami. È tipo di alla fine. Cioè, vabbè, il talento non è che... La regola è tipo tornare e allenarti per tot settimane per livello. Ma cioè... Sì, vabbè. Perché non c'è niente da fare nell'avventura, forse. Cioè, se ti fa un'avventura di tot. Ma comunque, vabbè, non dormiamo. Cioè, a me ovviamente fa comodo dormire, perché io prendo incantesimi di ottavo, prendo i due talenti, cioè, nel senso... Cioè, io facciamo la notte lì! Lo dicevo, no, però vabbè, ci sta, dai, andiamo avanti l'avventura. È che, chi allora, se ne impippa? È che Jung soffri. Ci viene a cercare se dopo un po' non torniamo. Perché è stato tu? Ho usato tutti i raggiro 20 e tutti gli ace. Già, è vero, lei però ha usato incantesimi. Sì, perché lui poi non poteva ricassare ace, quindi l'avevo lanciato io. C'è una bacchetta piena di ace, 50 carri. Vero, abbiamo una metà bacchetta di ace. Inchia, ma da lei che ora usa lei, scusa. Sì, sì, sì. Ok, ti do la bacchetta. Dai, ragazzi, facciamo andiamo un po' avanti. Poi magari ci dobbiamo la prossima battaglia, no? Va bene, dai, proviamo ad andare avanti. Allora... Anche se mi gustavo i miei talenti, però ci sta. Preferisco io andare avanti. Come on. Io non so cosa chiedere avanti. Va bene, quindi io sono appena uscito dalla pancia di questo. Sì, esatto, ti avevi tirato fuori, ho infilato il Falcon e il Spell, ti ho tirato fuori perfection. Con le mani Spell Perfection? Innervation. Innervation. Alla fine preso Innervation. Ho cercato tutto, ma non c'è niente paragonabile. Niente, piccolo S. Ho cercato tutto. Senza Lessing Spell non c'è. Ok. Cosa mi fissi? Piccolo S, ti sei girato. Vabbè, saranno tutti non morti, dai. No, infatti, per quello, non ci vediamo. Quindi cosa fate? Aprite la porta? Damasco, dai un'occhiata prima di aprire. C'è una porta in fondo alla stanza. Sì, c'era una porta in fondo. Ovviamente non è che finiva in una stanza vuota con solo le piante. Sarebbe stata pure una bastardata. Del guardare lontano. Cagami master. Guardi oltre la porta con i tuoi guanti, quindi. E cosa sono 15 piedi, tipo? No, è di più, vedete tutto il corridoio. Ah, tutto quello che vedevi, sì, giusto. Oh, perché mi hai preso? L'inner ferro. Sgravi di brutto. Fortissimi, sì. L'inner ferro. Non ci può fare, esatto. Ok. Batterò per questi momenti. Allora, cosa che vede? Vedi una stanza delle dimensioni tipo questa, più o meno, per rendere l'idea. Cioè, non grande, esatto, non è sicuramente paragonabile alla sala con... sì, né a quella da cui sei arrivata, che è ovvio che dentro le piante, né tantomeno ovviamente all'enorme biblioteca dove c'erano tutti i libri. Certo. Tuttavia, anche se non è paragonabile alla biblioteca, ci sono diversi scaffali ricolmi di libri che sembrano avere diversi anni, se non secoli. Più vecchi di quegli altri, detto. Sì. Sì, sì. E la porta... Sono vicini, quindi li vedi nel dettaglio, a differenza di prima che non vedevi bene. Cosa vedi, Damasco? Vedi inoltre che c'è una scrivania, no? Su cui è ripiegata Azalea, che sembra essere intenta a studiare qualcosa. Oh, studiare e scrivere. Mi sembra viva e vegeta. Mi sembra viva, sì. Cosa vedi? Riferisco che ho trovato una bastarda di merda. Hai trovato Azalea? Ho capito subito quello che intendevi. Chi era la bastarda di merda? Azalea, bacca, un po' di attenzione. L'ho detto. Bocca. Quando è stato deciso che lei era la bastarda? Lasciamo stare. Non me ne sono stato informato. Forza. La prossima volta ti faremo una notifica ufficiale. Grazie. Per i soprannomi, ma adesso non c'è tempo. Bene, allora andiamo. Forza, apro la porta. Esatto, tu che sei. Così. Sfondando la porta. Proprio. No, apro la porta. Apri boom, così senza bussare. Così. Ehi, giustamente, non si bussa? No, non si bussa, forza, andiamo, muovi il culo, dobbiamo andare a lavorare. Cosa hai trovato che studi con così tanto interesse? Ma che cazzo ne sa? Ma soprattutto perché sei qua, inizi di cercare aiuto, e dici qualcosa. Come hai fatto a entrare evitando quelle piante? E non mangi la sera? Cosa è mia, Azalea. Qualcun altro vuole chiedere qualcosa? Sì, che cazzo fa qua? Io ho fame. Non è che ci mettiamo un attimo ai fogli. È l'unico a cui manca la tua cucina. La mia cucina di te vegetariana non è piaciuta a nessuno. A me era piaciuta. Grazie. In effetti devo dire che vi hanno... Che mi sorprende molto l'abilità delle piante. Riesco proprio a replicare in tutto e per tutto quello che vengono mangiati. Tipo anche tu. Ma io ovviamente sono viva. Mi riferisco a voi che siete indubbiamente dei cloni. Fai una prova di sense motive. Baka, dice la verità. Dato 1 più... 25. Ok. Non sai dire assolutamente se è vero o no. Inoltre ti ricordi che servirebbe ben poco, perché quelle piante lì conservando la... Con un 20 perception? Cosa vedi? Che so. Vedo un cazzo. Sense motive, ha fatto senso. Comunque non sai dire niente. Cioè, giusto, perché sembra sincera. È vero, perché anche gli altri sembravano sinceri. Quindi secondo te siamo dei cloni? Sì, certo, capisco che se voi non lo foste, sospettereste che io sia... Tu lo sia, sì, infatti... E siamo giunti ad un impasse. Vabbè, mi fiderò poi facendo finta che voi non siate dei cloni nel caso lo siate, distruggendovi, annientandovi nel caso lo siate. Ok, l'accordo è reciproco. Se pensi di riuscirci, direi che va bene. Sì, sul barbaro potrei avere qualche difficoltà, ma visto che gli incantatori... è vero, c'è un modo molto semplice per capirlo. Le creature... Vabbè, facendo inizio. Vabbè, comunque, le creature prese no, le creature schiave delle piante perdono le loro capacità magiche, quindi... Lancio light sulla testa, sui capelli di Baka. Perché è sempre illuminato? Illumina me. Lei la lancia sul suo naso, così non diventa... Ok, questo... in realtà non so se questa cosa è vera della magia. Sodoma? È vero. Vero? Sì, è vero. È vero. Ignorante. Cioè... Beh, bastava, si poteva dire. Preso un giro dal suo uccello. Bene, ora esatto. Sodoma uguale Piero Angela, perché... Bene, ora che abbiamo risolto questa situazione abbastanza di stallo, che cosa siete venuti a fare qua? A salvarti il culo. Ma io, come potete vedere, non è che fossi molto in pericolo. Non a salvarti il culo, ma a chiederti di venire con noi. E dove sono gli altri? Perché? Cos'è che ti trattiene? Che fine hanno fatto gli altri, esatto? Beh, lo sappiamo, sono stati catturati. Sono stati catturati da dei cultisti, tipo. E perché? Cioè, non tipo. In realtà ho imparato molte cose su di loro, stando qui. Ah, buono. Dici tutto. Ma si tratta soltanto semplicemente di una. Cioè, per così dire, semplicemente. Di un gruppo di cultisti sopravvissuto alla guerra con i demoni, che intendono in qualche modo ristabilire l'ordine dei Suli. si possono menare? Tuttavia sono abbastanza illusi a quanto leggo qua. I demoni e i diavoli che imperversano queste lande sono al di sopra delle nostre e delle loro possibilità. Oh. Ho capito. Okay. Io meno chi vuole. Bene. Comunque no, non vi posso accompagnare se questo che stavate chiedendo. Ogni minuto, ogni secondo è molto prezioso in questa ricerca che sto compiendo e già mi avete distratto fin troppo. Spiegami che cosa stai cercando, potrei aiutarti. No, ancora da quei disegni, basta, andiamo e veniamoli! In modo che tu possa poi unirti a noi. Non so se la tua mente primitiva potrebbe comprendere quello che c'è scritto su questi tomi. Non so, tuttavia farò una prova. Ce l'ha con te. Ti ricordo, Azalea, che quelle nuove skills... linguistiche dentro Spellcraft. Voi quanto avevate detto di sapere alla ciurma di quello che vi aveva rivelato? Cioè, voi avevate detto tutto quello che vi aveva rivelato Coso, mi pare. Il diavolo? Sì, sì, sì, Bilaxar. Ah, sì. Quindi sì, lui aveva anche raccontato della storia dei Sul che hanno combattuto. Certo. A parte il corno, mi sembra non lo quindi, come... esatto, non so del flauto. Sì, non lo so del flauto. Come avrete imparato da Bilaxar, senza dubbio... saprete che i Sulli un tempo stringevano dei patti molto stringenti con i diavoli, erano una sorta dei diabolisti esperti, quindi capirete che è una materia che mi interessa molto. Certo. Essendo io a mia volta una diabolista, una signore... Immaginavo che ti attirasse, tuttavia il non c'è tempo. Il signore Cabriri, il nostro lord, colui che mastica. Il tuo lord che mastica. Ma anch'io mastico, non può essere un lord, che cazzo serve? Dipende che cosa mastichi, se mastichi dei baka... sei un lord. Però ho masticato di tutto. Ma non dei baka. Tralascerò questa blasfemia che un tempo avrei punito severamente, ma capisco che ogni idiota in questo momento ci è utile. Sì. Esatto, quindi muoviti. Risparmialo. Stavo dicendo, e quindi ci sono... che visto questa loro, diciamo, predisposizione a stringere questi patti, ho scoperto delle nuove tecniche molto interessanti che sicuramente alla mia persona tornano molto utili e che potrebbero tornare utili per, diciamo, soggiogare o quantomeno piegare futuri diavoli incontrati durante il nostro viaggio. Porta con te i tomi. Adesso abbiamo bisogno del tuo potere. Per fare cosa, se posso chiedere? Dobbiamo andare a salvare altri compagni, sbloccare il ma soprattutto di magia e esatto. Fare un po' di culo ai diavoli. Ma soprattutto... i nostri compagni sono di poca importanza. Perché tu non sei in qualche modo riuscita a comunicare con noi? Esatto. Beh, perché non avevo interesse al momento, stavo studiando. Davvero questa con l'intelligenza su quello stupido? No, perché c'è qualcosa che non quadra in questo caso. Ma dobbiamo veramente prenderla? Dobbiamo prendere ammazzate. Ogni aiuto, come ha detto lei, è fondamentale. Per questa volta per ordine di Jung, devi venire con noi. Scegli, o quelle buone o quelle cattive. Ma chi mi garantisce che poi ti ritroverò questi tomi che non vengano distrutti? Ti li porti dietro! Quanti Guarda, sono? Conducili 100, con te. 200? Beh, tutta la stanza. Aspetterò... Quanti di cui sono? Hai 5. Non osare toccarli, Barbaro. O questa volta non ti perdonerò. Fermo, Baka. Hai 5 minuti da questo momento per trasportarne quante più puoi nel tuo piano. E poi torna qui. Potresti portare un po' nel tuo e un po' nel tuo, così salvano tutti e gli altri ce li portiamo in spalletta. Non puoi dirlo, tu sei baka e non ma le cose che porti nel tuo... il suo piano. Nella tua magione resta lì. Per quanto mi scocci sì, rimandare sì. Lo studio, credo sì. Va bene, lo farò. Bravo. Oh, raga, ora. Va bene, quindi porta i libri. Nel suo piano. Stiamo creando un male della Madonna maggiore di qualunque città di diavoli, lasciandole dei libri così importanti. Ma chi se ne frega, perché per ora sta con noi. Tanto se ora sta con noi. Quindi. Basta uscire nel momento giusto, quindi. Non so come li recuperi, però. Li lasci lì. Chi se ne frega? Ma tanto, ci servono. Morta lei, credo che il suo piano si dissolva. No, forse no, sì. E le cose nel suo piano? Si no, sono. Non lo so. Non lo so. Questi no. Sono dilemmi per un'università, per le alte scuole di magia. Anch'io ho da fare delle domande sul piano, ma non ho avuto risposte. No, e hai risposto con schiantando bene, il cranio. Cosa, avete qualche piano? Sapete cosa fare? Visto che siete così intenzionati a cercare... Usciamo, andiamo lì, vediamo un po' tra le mani. Attraverseremo un passaggio segreto, Baka. No. Ricordi? No. No, sì. Dobbiamo uccidere l'animale grosso. È vero, prima dobbiamo passare da un grosso animale, il Behemoth, distruggerlo e farci dare una parola magica che ci concederà di passare attraverso Forse era meglio se continuava a studiare. Non c'è modo di ucciderlo, si continua a rigenerare. Come dovresti sapere. Vabbè, è arrivata lei. Tu lo sai, l'hai letto nelle pergamene? Sì, era scritto in questi libri. Si parlava del grande Behemoth addomesticato grazie a questi patti coi diavoli e rinchiuso in città come suo protettore. Addomesticatolo. Come se sotto un qualche incantesimo. Come addomesticare queste creature era un segreto che i Sully si sono portati con loro nella tomba. Ho capito. Chiaramente. Loro ne portano nella tomba. Altrimenti sarebbe molto interessante da avere come nostro compagno. Non starei certo qui a studiare, ma l'avrei già preso. Io preferirei un Abolet. È infinitamente più potente il Behemoth. In mezzo alla sabbia? Beh, sì, sarebbe indubbiamente utile un Abolet. Un pesce. Che cos'è un Abolet? Ecco, bravo, Baka. Sottolinea le cose importanti. non ha punti deboli, non smette mai di rigenerarsi. A meno che qualcuno non sia in grado di intercedere con la propria divinità attraverso e chiedere un miracolo, no. Beh. O di un potere simile. Si intende wish o miracle. Tu sei molto vicino alla tua divinità. Non pensi che... Non sono ancora così vicina come vorrei, purtroppo. Ma se lo meno forte, richiede forte. Molta, lui che mastica richiede molta più dedizione di quella che io finora, nonostante mi sia impegnata al massimo, sia riuscita a dargli. Magari c'è Wing Boom, ti può aiutare, però in qualche modo. No. Cosa devo sopportare? A parte che Cheng Gum è anacronistico, ma... Ma se lo vediamo forte, non muore. Devo ricordarmi... Non vabbè, tutto funziona così, Baka. Non ho mai visto una cosa che se non la meni non smette di muoversi. Sai che già gli inizi masticavano... Sarebbe qualcosa di nuovo, infatti. Beh, non lo chiama certo Cheng Gum. E se lo meno lo stesso? Se lo meni lo stesso, resta svenuto... A lungo, e quando non smetti di menarlo, necessariamente. Ma lui ha detto che dobbiamo ucciderlo? O dobbiamo abbatterlo? Dobbiamo ucciderlo. Potremmo fare una cosa. Che cosa, Baka? L'idea non ti piaceva neanche un po'. Mandarlo nella ma a questo punto... Sentiamo. Potremmo minarlo, mandarlo, farlo svenire. Sì. Lo mandiamo nel tuo piano, chiudi il piano, lui apri dove c'è il tizio Gobbo, e gli fai vedere che è lì dentro. Glielo vediamo svenuto, lui lo ha messo la sua parola magica in tutto questo. Nel giro di istanti ripristina le sue capacità di battaglia e ci sgolta. Allora, semplicemente, lo mettiamo nel tuo piano e lo lasciamo lì. Non è un soprammobile. di al tuo piano in casa. Esatto. Potrebbe di un tiro salvezza. Gli diciamo che l'abbiamo ucciso, abbiamo mangiato il cadavere perché abbiamo detto fatto. Svenuto. Cioè, se noi lo prendiamo, buttiamo dentro svenuto. E poi, cioè, tipo, andiamo, chiudiamo il piano, no? Non so se hai notato quanto è grande la porta. E non puoi farla più grande? No. Sì che puoi. No. È vero, non puoi? Non posso, è così l'incantesimo. Non lo so quanto è grande la porta, ma non è grande come un Behemoth. Sicuramente. Beh, il piano è più grande. Comunque, come fai a trascinarlo? Che sollevi 700 kg, ma pesa di più. Non lo so. Ma pesa sicuramente di più di 700 kg. Beh, ma in pratica non hai, tipo, il carico leggero, cos'è? Carico massimo 700 kg, senza sue penalità. Allora. Senza sue penalità, però. Ah, vabbè. Che riesci a sollevare, non so, vabbè. Però, trascinare potresti farcela, forse. E poi tu basta che... Alla fine qualcosa. 30 di forza è come un drago, cioè, quindi un drago magari riuscirebbe a trascinare. È più, molto più di un drago. Molto più di un drago, sì. Potresti trascinare... Anzi, non è così vantaggio, Non ci passa, ma soprattutto non vuole rinunciare alla magione, cioè. Sì. Basta che hai costruito la sua via. Non fallo schizzinoso. Ognuno ha significato qualcosa. Ma a questo punto, visto che questo animale sembra così invincibile, magari è solo un altro modo di prenderci in giro del nostro amico. Può darsi. Potremmo andare... Chi è? Andare a chiedergli. Ah, è un gobbo pazzo. Non ti abbiamo parlato. È un gobbo pazzo. Colui che ci ha chiesto... Ah, quindi stiamo seguendo gli ordini di un gobbo pazzo? Esattamente. E gli segue Baka? Bene. No. E ora stiamo seguendo quelli di un... di un buon gobbo pazzo, quindi vuole dire... No, grazie. No, grazie. La verità è che abbiamo l'unica... Questa è l'unica possibilità che abbiamo per accedere nascostamente alle segrete dei diavolisti. Sappiamo dove si trova Behemoth? Sappiamo dove si trova e non sappiamo come ucciderlo. Sappiamo, no, tu non lo vuoi fare. Non proponi un mezzo per ucciderlo, ma potremmo andare a indagare. dal Behemoth? Sì, osservarlo. Magari negli anni sei indebolito. Potremmo studiare ancora un po'. Potrebbe essere. Lo ritieni possibile riguardo quello che hai letto? È soggetto al deterioramento del tempo? Un 20, dice, non ne sono sicura. D'altronde però, se questa è la nostra unica possibilità, stare qui a discuterne. Da quanto modo... Da quant'è che studi? So per certo con questo 20 che non vi è altro modo di uccidere se non un desiderio o un miracolo. Ok. Quindi inutile sta qui a fasciarci il capo. Allora andiamo a vedere. Quindi l'intercessione divina è l'unica via. È fuori discussione, tuttavia. I nostri poteri non possono raggiungere la divinità. Per ora. Sì. Dice per ora nel senso di fra due livelli, sì. Io beh, diciamo che quello non è proprio così, tu tuo un wish, io continuo a pensare l'idea che la trasportare nel piano di mandarlo al gol sarebbe la cosa migliore. Sì, mi sembra l'unica soluzione. Mettiamolo in ma se lo voleva morto, avete detto? Non lo voleva morto. Che utilità può essere? Non lo voleva morto, ha detto lo voleva. Sì, lo voleva. Allora non vedo dov'è il problema, possiamo ucciderlo senza metterlo, cioè, basta dirgli senza metterlo in nessun piano, che abbiamo fatto sparire il cadavere, no, che l'abbiamo mangiato, che l'abbiamo dato alle Io non sono d'accordo a metterlo nella magione, perché poi dopo noi la prendiamo in quel posto. Non ci sta nella magione. Usciamo. Ci sta nella magione. Il tuo piano è più grande di un Behemoth. L'ho visto, ci sono entrato. A parte che non ne sarei così tanto. Lo mettiamo nella magione. Non lasciarmi sola. A pezzi, non puoi farla a pezzi, chiaramente. Per lasciarmi solo in questo... Lei è d'accordo con me? No. Vabbè, ma finché non lo smette nel mio piano. Andiamo! Baka! In effetti potremmo metterlo nel tuo. No, perché non c'è nessuna porta, a differenza che per la magione. Non sono un idiota. Non c'è, si teletrasporta. Cioè, volendo potrebbe prenderlo e portarlo lì, ma dovrebbe superare un tiro salvezza. Volendo. Fallire un tiro salvezza. Sappiamo essere molto convincenti. Ah sì? Uccidetemi e sarete al punto di partenza. No, okay. 20 su 20 su una. Andiamo a vedere come sta questo bello. Andiamo a vedere. 17, andiamo lì. Non è convincibile a riguardo. Come non è convincibile? Ho detto 17. Ma perché solo un idiota lo farebbe? Cioè, non puoi, cioè, c'è una penalità di meno 20 a far fare una cosa così assurda. Quindi con 17 come sei stato meno 3? Meno 3 o 22. Comunque non basta. Ok, ma quindi noi cosa facciamo? Andiamo lì? E diciamo, salve Behemoth, siamo qui per guardare cosa sta facendo. No, vabbè, siamo in stealth. Beh, ma mica parla comunque, penso. No, ma ricordo credo che saremmo in stealth. Ci avviciniamo lì passando per vie laterali senza incorrere in ombre, possibilmente. Sì, davanti. Una buona idea. Riusciamo a uscire senza essere attaccati alle piante, ragazzi. Facendo molto silenzio. Ma non è la mia, la via della magione si è molto più carica. Smetti la bacca, la mia magione non si tocca. Questo lo dici tu. Sì, certo. Infatti. E io ho detto un'altra cosa. Bene. Che è irrilevante. Quindi ci camminiamo? Ci camminiamo verso il Behemoth finché non lo vediamo agire. Aspetta, andiamo che poi via. Costringiamo la trama di Stella. Costringiamo a mettere la trama di Stella. Ma a che raggio state da lui? Sotto la minaccia della morte. È un isolotto suo. In realtà dovete stare più attenti che lui non veda voi, cioè, altro certo, infatti. Ma se lui ci vede fuori dal... Beh, ma lui magari comunque... mandate qualcuno, non lui... tutti questi da quello che abbiamo capito è addomesticato in qualche modo, quindi no, insomma... Tu... Ma lui è stealth. No, lui che ed è rimasto fare lì. Quella roba per diventare in... Beh, si è trovato fuori. Bene, intorno ci sono chilometri e chilometri di deserto, cosa doveva fare? Azalea. Ma in questo punto della città. Sì, è rimasto lì in un'area della città, perché poi comunque ci sono tante ombre, cioè non è che la difende, basta, non è che... La casa è sua. Azalea. Sì, è come se fosse stata una tana, cioè. Dici che cosa sai sul Behemoth? I suoi sensi, le sue capacità magiche, le sue resistenze. Purtroppo non sarà facile fare in modo di non essere visti. Purtroppo percepisci tutto quello che c'è. Che cazzo sei grande? Scusa, non l'hai visto l'altra volta. Vediamo. Cosa fa? Madonna mia. Vediamo. Nero l'alto, però. Vediamo, Behemoth. Thunder Behemoth. Cosa qua? No, la balena è più bella. Una specie di... Che volta la balena? Ornitorimbo. No, come si chiamano? Di diavolo. Istrice... Anyway. Purtroppo vede... percepisce dai. Chiunque si avvicini in un raggio di 60 piedi. Senza possibilità di scampo. Ma vediamo, 60 piedi. Tradotto a... 12 metri, 60 piedi. Perché egli potrebbe... Egli ci vede in questo senso vede anche quando è cieco. Cioè ha blind sense. Ha blind sense. E... Beh, non è molto tanto, 60 piedi. Anche se cammini. Certo. No, infatti non è tanto, però se sei entro i 60 piedi sei visto. Oltre i 60 piedi invece? Oltre i 60 piedi comunque è dotato di sensi molto acuti. Può scorgere l'invisibilità? No. Cioè, dati... beh, la scorge entro 60 piedi. Certo. Cioè, tu dici, non ha così. C'è qualche possibilità di... Bene. Non vuoi dire che abbia il mind affecting, però in quelle parole per dire in maniera diversa. Può essere influenzato mentalmente. Sì, non so se manca quella di una del genere. C'è qualche possibilità di fargli paura. Fargli paura. Non percepisce, non sente niente che possa paragonare alla paura umana. Tanto meno a quella tanto meno è manipolabile magicamente da questo punto di vista. E allora lo mano per tradotto è immune a mind affecting. Lo mano per come del resto è immune a moltissime a moltissimi problemi a cui noi siamo soggetti, per esempio paralisi, ferite permanenti, cioè veleno, ferite permanenti. Tipo il critico. Non può essere trasformato ed è immune ai livelli negativi. E al critico? Cos'è il critico? Dillo bene. Ci sono punti deboli in cui poterlo colpire. Sì, come ogni creatura risente se qualcuno lo colpisce bene. Cioè risente, vabbè, bruttissimo, detto così. Certo, certo. Lo colpirò allora molto. Quindi forte. Non è immune ai non è immune ai precision damage. Sì, esatto, ai suoi punti deboli. Non è immune al precision damage né alla né ai critici. Ho capito, va. Beh, prima di del genere o con robe, vabbè, comunque in generale. Ovviamente resiste a questo film, però non può essere la sua resistenza agli incantesimi ovviamente elevata. Sì. Come ci si può tenere la creatura di questa magia? La creatura magica. Sì, sì, è una magical beast. Ho capito. È un nemico molto temibile. Ok, ci avviciniamo. Non so se hai capito. Io propongo che vada soltanto qualcuno di noi, il più abile a non farsi vedere. Dove? È inutile rischiare la vita però... tutti quanti. Inoltre, chi non è in grado di nascondersi, certamente si farebbe vedere subito. Andrei io. Non ho bisogno di nascondermi. Andrei io oppure manderei il mio Sodoma, ma... Beh, potresti mandare il Sodoma, cioè alla fine un corvo non è... No, ah, tu dici... Cioè, magari non... cioè, se vola, poi lui... Magari non ci fa neanche lui caso un corvo. Non sa volare, quindi un corvo sicuramente sarebbe molto utile. Beh, se qualcuno potesse trasformarsi a volare, ma gli può mandare qualche razza della mo... Minchia. Vado io con un corvo? No, il Terrasque non c'è. Cioè, se non è lui, però... Classico Terrasque, straforte, mega forte, poi non sa volare. Reverse Gravity morto. Esatto, Reverse Gravity morto. Resta lì, appeso. Ah, compagni Reverse Gravity che lo mandi. Non l'ho preso apposta perché così Danilo ci mette anche nemici che non volano. Tipo sconfiggi il Bevo perché non Reverse Gravity te lo manchi. Grazie. Sodoma, vai. Dici qualcosa, vedi. Beh, in realtà comunque alla fine è utile, cioè, per un boss da solo... È utile solo perché non può colpire sicuramente chi colpisce. Beh, ma noi siamo molto mini. Pum, pum, pum. No, solo lui mini. No, volevo dire siamo molto. Ma non cambia, cioè non li colpisce. Ah, beh, sì, tu dici non si avvicinerebbe lo stesso. Sì. A parte che Res Gravity riesce a tirare su un colosso. Non so. Non so. Vabbè, poi ci pensiamo. Comunque. Mandi Sodoma. Mando Sodoma. Che si aggira intorno a lui con nonchalance. La la la. Sono un corvo normale che vola lì. Così. E lo osserva. Ed è cosa deve fare? Una prova di perception? Oppure... Sì. Una prova di perception. Lui prende i miei gradi. Che sono solo... Di agosto 20 io non ero sicuro se dirti che vedevo una cosa, ma adesso con questo. Vai, 20, dai. Dimmi. Diciamo che lo sono. Mattio che piace. Vabbè, ok. Non l'avete. Allora, il Behemoth... Non sembra in nessun modo essere indebolito dal tempo che è trascorso. Ah, la creatura che invecchia. Esatto. Ovviamente. Allora, ok, torna da noi. Aspetta. E ci riferisce no, questa cosa. Sì, ah, sì, ok, sì, sì. Torna da noi. Dici, Sodoma, cosa hai visto? Una cosa, però... Va bene. Quanto somma lui? 6. Ah. 26. Allora no. Perché? Si sono sommasse molto di più. Certo, cazzo. Ma c'è i miei gradi. Niente, non vedo nulla, dai. Torna da noi. Forse il vostro amico ha in mente qualcosa. Il nostro amico, dici quello, la voce? Sì. È infatti. Il pazzoide. Andiamo da lui, torniamo dall'amico. Tornate indietro? Vabbè. Sì. Ehi! Cazzo, ho fatto 20! Ma vaffanculo. Voce? Docina? Beh, sì, che c'è? Voce registrata, su, vieni qua, dai, per parlare del Behemoth. Cosa volete sapere sul Behemoth? Se è veramente una sfida oppure ci stai troppo prendendo in giro? No, mi serve che sia morto. Come si uccide? Con le botte? Devo spiegarvelo, Baka? E io ve l'ho detto! Si rigenera. Ah, quello. Beh, quello ci penso io. Ah. Io ve l'ho detto. Basta menarlo. Una volta privo di sensi lo ucciderai tu stesso? Mettiamola così, sì. Come stesso motivo. 16 più... 20. Lo aggiogherai al tuo volere? 41 fatto, eh. Senti che sta mentendo, cioè non è completamente sincero. Ehi. Su qualcosa sta mentendo. Fai poco il in fumo. Parte è vero. Non è che lo uccide. Allora. Fai poco il fumo. Ma infatti ha detto... cioè, sì, esatto, sì. Infatti, no. Cioè, in realtà ha detto è vero, ragazzi, in un certo senso. Io gli ho fatto... ah, io gli ho fatto una domanda diretta. Lo giocherai a tuo volere? No, no, quello sicuramente no. Chi ha intenzione di farci? Fuori la verità. Comunque... essere morto, l'ho già detto. Non ci è lui che fa le regole. A quel punto potremmo andare. Ma basta menare il gobbo? Noi lo portiamo svenuto, tu ci dai la chiave del passaggio. Sì, sì, siamo d'accordo. Perfetto. È la nostra unica possibilità. Quindi la porterò quasi svenuto. Ma lei è la tipa che cura tutto, vero? Chi? No, mi recherò io stesso sul campo di battaglia, chiaramente. Raggiungici in fretta. Altrimenti qualcuno ti prende. Chi ha detto che non sono già lì? Quella è Corinne. Questa è una voce registrata. Sulla... giusto. Non ce la fa mai portare. Scusa. Dietro. Con la voce registrata. È vero, che sciocchi. Ce ok. Sciocco. Che sono. Ce ne dimentichiamo sempre. Andiamo. Andiamo. Allora torniamo lì. E come aveva ragione Maca anche una volta. Se una cosa la meni forte, finisce di vivere. L'hai visto? Chi aveva ragione, Abraham? Baca, aveva ragione Baca. Sì, ancora. Aveva ragionissima Baca. Va bene, allora possiamo procedere. Grazie a lei, a cosa mi tocca sopportare, lo vedi? Sì. Non fraternizzare con questa. Mi dovete abusare per menare la gente, vedi che quanti danni fai. Andiamo. Ok, vi dirigete nella tana del Behemoth, quindi. Sì. Io. Ci dirigiamo alla tana del Behemoth. Lupo. Ok. Fate io mi rendo invisibile. Ok. Cosa fa? Cioè, io sto entrate nell'isolotto. Io sto abbastanza dietro. E? Fly di massa. Fate qualcosa. No, io con cazzo voglio volare. Io? Perché devo fare pause, no? Beh, non volare. No. Cioè... com'è il terreno accidentato e... normale, sono città... cioè, città, scusa. Case devastate, edifici. Ma non è... dove andiamo? Cazzo, non è sincronizzato. Cioè... Sì, direi di sì che... una volta dentro i sotto lo vedete abbastanza chiaramente. Ma lui su quale caso? Ma fa su tutto io lo devo fare alcune da sola? Sì. Fly di massa lo fa su tutto e lo devo fare da solo. Vedete che cioè quanti altro scusa? Inoltre è difficile non notarlo perché cioè muovendo si scuote il terreno comunque boom boom poi c'è scritto qua. Allora non è fermo. Certo. Credo di averlo sotto. Prima di ovviamente prima di fare qualunque cosa lancio freedom of movement. Ma cos'è una mucca? Aspettare che dorma o bene? No. Cioè abbiamo sicuramente provando. No dai che palle si sveglia. Okay. Non lo so come funziona. Comunque no, sicuramente Jumbling Sense, Dark Sentry, More Sense, 27 di Perception. Cioè, una sì. Volta che hai messo un piede dentro la sua area, t'ha già sbranato, quindi esatto. Sicuramente, cioè. Io faccio Freedom of Movement su okay. Tutti. Ne uso 4, tranne su di me. Sperando. Tu sei invisibile, no? Sì. Ma lui è cos'è che fa Freedom? Pare di no. No, dai, ma questo qua c'ha 5 stomaci. Zio, cioè, Freedom of Movement va usato. Cosa fa Freedom of Movement? Vince automaticamente dura, prove di grado. Non durerà 10 minuti per livello. What the hell? Ok, per 40 minuti siete intrappolati in delle realtà. No. Anzi, per un secondo, però sono in realtà a tempo accelerato, quindi. Aspettiamo che la magia riparta e ci lanciamo all'assalto, lancio East. Quindi ci abbiamo East. Vabbè, lo faccio durante il combattimento. No, lancio adesso. Ma no, sennò è troppo macchinoso. Eh no, se lo lanciavi adesso così interveniva subito e dopo il primo mi interveniva subito. Senti, sei tu che hai preso quel cazzo di talento. Non mi sembra tanto corretto, un incantesimo che dura round. No, incantesimo che dura round no. Ok. Da poter lanciare niente di dura minuti prima battaglia è un buon bonus. Infatti. Va bene, va bene. Allora... lancio Alter Self su Sodoma. Okay. E lo rendo un piccolo goblin. Ma è scritto così? Un piccolo go, vedete Sodoma che a un certo punto da che sta sulla mia spalla si trasforma in un piccolo oh, goblin no. Sì perché Alter Self ha prima sulla spalla Alter Self ha sì, a target personal ma io posso condividere con il mio amico e diventa un piccolo goblin e fa salve come state sono Sodoma che cazzo sei tu fa una capriola e cade mamma mia e scende dalla mia spalla ti devo menare sta zitto Sodoma e prendi questa gli do una bacchetta. Sì, certo. Adesso ha le mani. Adesso ha le mani. Pensa che è in dubbio se non potesse farlo dalle zampe già. Ma il dubbio che ho risolto dicendo no, non può. È un'ottima risposta, Riga. Lo usavo anch'io le cosmovisioni. Questa bacchetta contiene un incantesimo potente. Haste. È sempre CD20, no, la bacchetta? Fissa? Sì. Sì. Ok. Sai cosa fare. Stai lontano dalla battaglia, mi raccomando. Ma abbastanza da prenderli. Ok. E questa. Ho due altri self, minuti. Minuti. Fai minuti, sì. Ma di secondo devi farlo per croccato. Beh, puoi farlo per croccato. Lo faccio per croccato. Automaticamente, quindi, ok. Un po' di non quello che devi portare. Ok, andiamo. Sì, vabbè. Comunque outflank è utile perché adesso anche lui fiancheggia. Ma lui ce l'ha? No, però non ce l'ha. Lui. Potete prenderlo, questo potete farlo, cioè prenderlo da due. Esatto, io e lei sicuramente lo facciamo adesso. Va bene, perché vi avvicinate, cioè, per avvicinarvi, sì, al sì, bene. Sì, anch'io lo devo fiancheggiare. No, lo carichiamo. Cioè, vi dirigete, capiamo? Lo carichiamo, ho detto che è distante, minchia. Sì. Questo edificio carica questo. Capiamo come... No, perché come siete nella vostra... Dopo un po' che siete nella sua isola, anche se vi state avvicinando a lui, lui vi scorge, perché già... Certo. Dopo aver messo un ruggito che fa tremare l'aria attorno a voi, però non il ruggito vero, perché... Minchia. Non il Mikey Roar, ma... No, saremmo morti. No, esatto. Se no, sareste sordi. Ruggisco anch'io. No. Ride quando ruggisci. Carica verso di voi. E vabbè, tiriamo iniziativa. Si dice. Io posticipolazione dopo Sodoma. Dopo che sono fatto haste. Ok, quindi ti è andato. Va bene. Sapevi che ho lanciato il mio 16 totale. Io 21. Ecco, una merda, come al solito. 12. Io lo faccio sempre sotto 10 iniziativa. Tranne una volta che ho fatto 17. 12-19 fa 31. Sì. Ah, ma che merda. Pensavo fosse molto più forte sta cosa. Falla più forte. No, vabbè. Non dare questi suggerimenti, leve. Di chi è questo telefono? Mio. Puoi staccarlo solo. Vai con l'iniziativa. No, ve lo sono quanto hai, se no non se lo stacco. Era poco che si mette. Dice quando è il master. No, non sto marrando. Perché non usi il computer oggi? Ehi, hey. No, è poco. Perché mi serviva solo per vedere se andate in giro nella città. Perché è solo lì con la mappa, altrimenti non mi serve. Perché ho... Perché ho il tratozio? Non c'è perché neanche cosa... che hai dato? Non ritardare? No, io. Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho fuori. No, vabbè, c'è abbastanza spazio. Cioè alla fine, se no cos'è? Un tiro will? Mm-hmm. Di will? Il tiro? Per negare? Ma sto coso? No, al tuo haste. Sì. Sì, ma questo lo superi, Sicuro? Basta, perché è una bacchetta. Secondo me ha scritto, cioè, io la interpreto. La interpreto come interpretavo prima, perché secondo me è scritto solo in modo ambiguo. Dopo ve lo dirò. Vabbè. Ok. Sarà la causa della morte di due giocatori. Questa interpretazione del master. Oh, non lo so, vabbè, vediamo come. Non smentisce. Può essere. Secondo me no. Quali sono esattamente le condizioni per fiancheggiare? Gli elementi, fuoco, ghiaccio e quant'altro. Il centro del tuo quadretto, dal centro del quadretto al centro di un quadretto alleato. Deve. Inutile fare gli incantesimi. Attraversare? Deve attraversare due lati non adiacenti del nemico. Ok. Se il nemico è grosso. Se tu sei. Però tu non sei grosso più quadretti, quindi niente. Così. Perché se il nemico hai preso una laurea questa la laurea. Sì, per queste cose qua erano, cioè, più altro per le cose tipo di farmi scivolare. Per cover quelle cose lì, cioè. Ci ho messo tipo 3, no, quanto, quanto gioco? Mamma, per capire come funziona. Allora, se mi faccio scivolare, dico che da ogni angolo del tuo quadretto devi tracciare una lì, devi tracciare tutte le linee che vanno agli angoli, cioè. Tanto per beccare. Non ricordo già più. Basta bocciato. Faccio meno male che c'è no, il mio. Gli angoli. Sì, però poi vai vicino al mostro. E tanto ci sono già vicini. Cioè... No, dico a lei. Cioè, di non stare a sguardo. Vale, devo segnare anche a Zalea, coglioni. Ah, cioè, potete lasciarla studiare. No, cazzo. A Zalea? No. Io adesso va nel piano di lasciare la merda. No. Scappo, aspetto se mi presenta e la uccido. Uccidila. Sembra forte. Se dai. Come se fosse difficile. Io vado 16. 16? Hai visto quanto ha fatto il Bemo, bastardo? Lo dico, anch'io. Vada a fare il culo. 12. Detto di mettere il coso. Io 12. 21. Posticipo dopo Davide. Bravo, così lo segno, già a 12. Anzi, lo segno a 11. Anch'io, giusto, 31. Sì, anch'io. 31? Sì. Anche tu posticipi. Anch'io gioco dopo il corvo. Beh, posticipiamo tutti. No, tu no. Tu hai chiamato altissimo. Dopo Avram o dopo Damasco? Non capito, dopo il corvo. Dopo il corvo, dopo il goblin di Avram. Esatto, scusami, sì. Perché fai... Perché fai... Dopo le list. Ma conviene che posticipo tutti, mi sa, dopo le list. Ma perché tu facevi... No, no, io ho tirato basso. Cioè, 180 tiri, però io... A me non interessa. C'è uno, se no, adesso. Io potrei prendere più a 25. Cioè, solo perché ho tirato più basso. Andiamo a prendere Azalea. Che vita. Azalea è davanti. Che stupido, infatti, ho pensato di portarsi via i libri, vabbè. Se poi c'è una settimana di viaggio, Quindi tiriamo fuori la... Cosa stiamo dicendo? La griglia. Azalea è davanti. Sì, date fuori la griglia. Ah, ci vuole la griglia. Bene, la situazione di tira fuori. Bella. Aspetta, barbecue. Quindi bisogna finire queste cose qua da mangiare. Sennò. Devo sacrificati. Non si può. Non mi sembra possibile. E io ne mangio uno. Gargantuan? No, scherzando, dove li hai tanti? Colosso. Quanti quadretti? Mangia, mangia. Dai, mangiane uno. 5 lui si ferma a distanza tipo di 120 feet da voi. Minchia. Che poi è un mei... Cioè... Quindi non so se voi ci state. Cosa? Però. Posso spostarmi un pezzettino più indietro così magari ci sta... Dave! Griglia? No, grazie. Beve mango. Beve mango. Cos'è questa cosa? Dai, è lui. Diamo, certo che sì, scusate, l'ho fatto un po' decentrato. No, credo che sia un problema. Beh sì, forse sì. Beh sì, perfetto, già invece. Allora lo rifaccio. Dobbiamo impegnarci un po' noi? Infatti non ci siamo per ora. Ah, tolgo? No, non ti ho lasciato. Mettilo in centro, così lo fiancheggiamo decentemente. La nota dove devi cancellarlo, non scrivere. Ok. Vediamo. Facci quello che ci devi fare. Sì, giusto. Devi cancellarlo, cioè. Che lo cancellano? Allora, quando lo vediamo... Ha arrivato che le mie. Possiamo... Allora, lei prende... Più centrale. Tre di loro, io prendo gli altri tre. Anzi, lei ci prende tutti e fa Dimension Door. Quindi sono 3 caster level, tu sei a 15, quindi 5. Non di più. Sì, 5. Ti porta tutti. 5, però devi overclockarlo. Usa la vita. Ah, prova. Spellcraft. 12 più... Dovrebbe averlo passato. Sì. 20. 32. Sì. Ok, riesci a rendere il tuo incantesimo più potente, ovvero potente quanto era prima del nerf. Sì, però io sto fuori, cioè io non mi faccio prendere però. Ah, ok. Sì, scusa, non l'ho detto. Probabilmente. Tranquillo. Cos'è che ha fatto? Che ingattese ha fatto? Forse non so, anche Azalea si vuole mettere lì. No, Azalea non vuole farsi portare. Sta con me? Sì. Ok. Io Azalea restiamo dietro. Che ingattese ha fatto, scusa? Dimension Door gli ha portato tutti davanti, tranne me e Azalea. Ma davanti? Anche a me. Sì. Davanti? Davanti quanto? A che distanza? Devi stare dietro. Sta dietro anche Khan. No, aspetta. Ho capito, dai, avanti sono io. Io ero io davanti. Ma ci può mettere in punti diversi? Davanti. Ma io c'ho Bunda Step. Ragazzi, davanti non nel senso attaccato. Probabilmente intendere davanti a una distanza tale che riusciamo a colpire. Io ci penso meglio attaccato. Ci penso io a me. Fai full attack, fategliela anche voi. È perché sennò sprechi l'azione. Sì, no, ma dico luogo. Cioè, capito? Per perché se non tu sprechi l'azione, capito? Cioè, se ci mettiamo tipo qui per dirti, avvicinarti, no? Allora, quello. Tanto lui già fa. Io invece uso l'incantesimo, tanto non posso. Io c'ho Wound Step. Lui? Tu. Ah, sì, ma dopo non puoi avvicinarti o indietreggiare quanto vuoi. Per capisci dire, cioè, che non è attaccato, lui può fare l'attacco. Sì, è solo perché io non, tanto non posso usare incantesimi perché è praticamente nulla tutto il mondo. Il terreno attorno a lui è pieno di edifici. Però avessi da usarlo, usalo assolutamente. Sono ormai stati blocchi a polvere da tempo. Qui. Si vede che questo è il. Ah, il metto le linee perché, tipo, oh, cioè, se lo metto. Sì, no, anche io, anche io, sono io lo sono dietro come. Cioè, lo metto io, due quadretti di qua, due di là, capito? Non puoi metterlo a metà. Mi avvicino a 100 piedi, io non. Non vado così vicino. Sì, cioè, deve essere ogni due quadretti. Questo metto in mezzo. Un po' più avanti perché questo è 120. Non so, qui o qui. Dove vuoi? Qua. Sì, però. No, deve essere in linea. Davanti stanno solo Eleni, Khan, no scusa, Baka e Damasco, ci sono troppi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, non siamo in 6? No, Io, Khan e Azalea siamo indietro. Ma Azalea quanto indietro? Perché sono davanti? Io Azalea 120 piedi e io Khan 100. 100. Ma quelli sono fuori dalla roba? Perché sì, sì. Il tuo range. Quindi per questi vedere. Non ci sono. Sì, 100 fai 90 perché... Vabbè, allora ragazzi, io mi faccio un po' più indietro, per sì. Vedi, fin io dove mi voglio hai, bene, ma... Fin dove hai... Nel tuo turno, però. Qua. Tu che range hai, scusa? 30 piedi. 30 piedi. Nel tuo turno. Sono pochi. Scusa, sono sei quadretti. Usiamo sei quadretti. No, dovete quadretto... stare tutti vicini perché vi ha portato l'esatto. Esatto. Nel tuo turno, se vuoi, ti sposti. Comunque, non fare distanti un quadretto solo se voi siete grandi due. Perfetto. Cioè, devi contarli giusti, tra l'altro. Primo era giusto. Questo? Sì. 15. Touch solo con 15 lo prendo. Vabbè, più... Sì, il touch lo prenderai sempre. 21. Cos'è quello fatto, scusami? Ma sei entro sei quadretti. Sì, sì, sì. Cioè, 5, 4, 4. Lui è al sesto. No, lui è al quinto. Ci sono 4 vuoti in mezzo, quindi lui è al quinto. Sì, sì. Quello è fatto? Io questo qua non devo aggiornarlo. Aspetta, ma è 20 fit il touch o 30? Perché mi pare che il touch sia 20, non 30. 20, 30 o un più 1. Quindi sta più vicino. Ha detto che 30, 30. 30 arrivo. No, 30 prendi più 1, ma non è touch. Certo come che penso? È touch. Non lo so. Pare che touch è dentro il primo range increment dell'arma. Vedrò una pistola. Se no ti devi mettere qua no, e spostare. Tocca a me in tua niga e poi niente, lo carico e basta. Ma che pistola hai che spara? E poi te lo faccio, solo che adesso... Che spara cosa? No, ma spara anche molto più lontano, solo che prendi malus, cioè... Cioè, solo che non è a C-Touch. Esatto, non prende la C-Touch. Che è un grande bonus. Prenderò. Io questi qua devo aggiornarli, vero? No. Hai messo più uno? Ah no, i danni no. No, i danni no, non c'ho più uno. Solo attivo per il tiro io. Cosa? Sto qui ci ammazza, vediamo dai. Sì, è facile. Wife. Ragazzi, vi posso raccontare come dall'altra parte. Controllo, eh? Che effetto è importante, l'abbiamo mai guardato bene. Che cosa? Sì, su range 10 a touch. Perché qua stavo pensando che prima non abbiamo visto se avevo nuovi punti arcani o del genere. Arcani pull? E arcani pull è tipo il tuo livello, metà del tuo livello più la tua intelligenza. Capito, 20, no, no, eh? Aspetta! 20 ma cosa? 20. Ma io ho anche il più uno nei 30. Sì, hai più uno nei 30, ma per fare la C-Touch devi essere entro i 20. Quindi, ma è vuoi... impossibile! No, non è possibile, è così. Quindi se voi scendi, sei teletrasportata qua e fatto passare mezzo mezzo qua. Non ci sono talenti per aumentarla? Sì, forse. E per forza devo prenderli, ti pare che resto così? No, cosa ho fatto? Vabbè, stavo dicendo. Ok, sei qua. Vabbè, picchia e basta, adesso. Ci sei? 31? Sei lì, in realtà. Quanti ne devo fare adesso di... Due flat-footed? Eh sì. Non agite ancora. Per vedere se può fare gli attacchi d'opportunità. Dice con il behemoth. Di me. Io faccio tutti e 5 i miei attacchi, no? Sì. Immagino, sì. Sì, sì. Ammazza, fai un po' di danno. Questo vado? Hai appena preso la class shot, vero? No. Devo prenderlo dopo. Vai. Che vita. Ma hai già tirato? Aspetta, quando hai tirato? 15? 31. Ah, sì, 15. 15 più, scusa. Colpisci tutte le volte che devi. 30. Cioè, 31 e 30. 31 e 30? Sì. 27. Aspetta un attimo. Vabbè, 1, 2, 3, 4, 5. 27? Sì, 31, 30, 27, 32. Ok. 31. Ok. I tuoi colpi ti sembrano essere... ti rimbalzano sulla sua corazza. Minchia. Anche con la Sky Pistol. Sky Pistol non cambia niente. Comunque, sì. Cioè, nel senso, non è che sono completamente inefficaci, però sono molto attutiti, diciamo. Quindi c'ha una cifra di damage. Damage reduction, forse addirittura 20. Su quella cifra, cioè su quella cifra, ti dicevo. Sì, è molto resistente. Maledizione. Però vabbè, non è proprio vero. Credo che colpi di più, quindi 15. Infatti, immaginavo, però dicevi addirittura che sembra un pochissimo efficace. Cioè, la metà. La metà, è normale. Cioè, facci 20 anni in più con Cluster Shot. 60 anni in più. 60 anni, fortissimo. Dai, ok, tocca a lui. Mm. Però prendiamo amore, ci fa malissimo. Prima che gli accorgi, cioè nel senso, dinanzi a voi, prima del Vemoth, cioè dinanzi proprio a Bacca qua. Sì. Cioè vabbè, fai uno avanti così, giustificato che non aveva odorato addirittura. Appare il vostro amico con la gobba. Ah, che figo! No. Ma è una persona? Sì. L'avete anche visto una volta. Come lo chiamo? Gobba. Infatti, ecco la gobba. Il gobbo, che parte voltato. Non mi aveva detto il suo nome, mi pare, o non lo no, ascoltare no. La registrazione. Tu dici, ma allora no, siete no. Così pazzi da farlo davvero? E da che parte è voltato? No, da parte del Bemo. Meno male. Domande dei giocatori veterani. Esatto, io stavo pagando un dado, perché è già qui. Visto che hai tanto di metterlo da uno distante da Baca. Esatto. No, dice... Ci si rivede, maledetta bestia gigante, così no? Ma che diamine sta succedendo? Prendo quello la... è... Non so il suo nome. Prenda la cintura... Il maledetto gobbo! Contenente un liquido rosso ribollente e la beve. Vedete le sue vene? Cioè, ingigantirsi e quasi uscire, esplodere dal suo corpo. E urlare... Alchimia. E le vedete urlare Forno. In modo agonizzante. Tuttavia, Super Saiyan. Il Bemoth sembra quasi stregato da questa metamorfosi. Da questa metamorfosi e non ha occhi che per lui. Nonostante l'immunità a controlli mentali, non può fare a meno di mangiare il gobbo. Oh, madonna. E inghiottirlo in un colpo solo. Fatemi una prova di Spellcraft. Cioè, esplode dentro... 41. So, okay, no, anzi, 42. Beh, oddio, tu non eri lì, però. Vabbè, beh, ero lontano. 120 fix, sì, vedi. Ma io ho fatto 28, sì. Anche con un mal, beh, 28 è bello per la raffinatezza di questa magia. Cioè, in pratica, si tratta di un potentissimo ritrovato alchemico. Intanto lo dico ad Azalea per mettermi in mostra. Di cui ho letto sfuggitamente soltanto di recente, tra l'altro. Incredibile. In pratica, se ingucciato da. Cioè, se per funzionare, deve per forza, diciamo, catalizzare all'interno di un corpo umano. Ah. E quindi non poteva fare altro che bere questo estratto. No? E se poi, dopo che, diciamo, si è evoluto, viene mangiato dal Bemoth, blocca la sua capacità di rigenerazione. Che figata! Quindi lui l'ha bloccata facendosi mangiare. Fondamentalmente. Immagino che sia morto. Immagini sì, veramente. Questo è un sacrificio estremo del nostro gobbo. Facciamo che non sia vano. Però lo dico piano, perché sennò... Boh, chi lo sa. Vabbè, c'è una voce di strada. Ci sta scritta dentro la pancia. Ehi, ci sei ancora? Lo urlo. Questo l'ha reso vulnerabile. Lo urlo lo stesso. Noi lo sentiamo? Possiamo trovare. Scommetto che il Bemoth non sa tutto il suo round per fare questa cosa. No, beh, no. Sembrava troppo bello. Vabbè, comunque... Resta una standard dash. No, scherzo, in teoria no. Dovrebbe aver finito sto round così, però troppo squilibrante. A me sembra piaciuto così. Facciami sputare fuoco sul bar. Questo ritrovato alchemico dà come immediate action al Bemoth di mangiare il coso, quindi non la swift action. Ecco, bravo, mi sembra un buon ritrovato tecnico. Ok. A me non piace. Non so perché, e quindi c'è anche uno problema. Dopo che si sente indebolito, lancia un urlo, cioè un urlo ruggito che scuote l'aria e sembra tipo un boato sonico di quelli che fanno gli aerei quando superano la... E che fighi. E rimaniamo solo. La barriera del suono. E fate un tiro salvezza. Cosa? Nel raggio di? È un cono con raggio 60 piedi, quindi voi siete fuori. Ah, una volta che ho fatto 18. Io ho fatto 24. Bene. Totale 24. No, 24 non lo so. No, 24 non lo so. Tu? Io so, a 100 metri. 26? Ah, giusto. 28. Avevo fatto 30. Comunque. 28? 26. Forti, ti ho detto. Ok, voi che siete lì lo fallite tutti. Minchia, anche 28? Sì. Cazzo. Aspetta, ma che cos'è? Cosa? Adesso lo dico. Cosa mi succede? Minchia, 28 è tanto. No, nel senso se è tipo illusion, poison, cosa? Paura, quello di intendere. Tutto intorno a voi sembra essere silenziosi, siete rimasti assordati dal ruggito. Cosa? Non hai delle immunità. Siete sordi. Eh sì, per quello che glielo noi lo sentiamo e basta. Ma lei è un sacco di robe. Lei è un sacco di robe. No, adesso no, è una supernatural ability. Sicuramente non sei immune. Non sei immune. Okay. Poi cos'è? Sì. No, gli urli dei bei. Vedi dei bonus. Con delusione. Ah, ok, dei bonus. Vai. Mi sa arrivo. Cazzo, se fossi stato in Iro super... con 34 lo superavo, vero? Sì, beh, direi, dai. Si sa mai, sai com'è? 28 proprio no, c'è neanche il player. Perché player killer mi hai preso, ci sono voi. Allora. Allora. Quando dice allora... Cosa vi succede? Siete morti, ma non lo sapete ancora. Prima eravate qui. Siete inabilitati ad agire. Cosa? Minchia. Per? Un di 4. Come può? Scusi, sono davanti, muoio. Fammi tirare un di 4. Fammi tirare 4 di 6, va. Quando lo vedo, guardo il goblin. Guardo il goblin e dico, meno male che non ti ho mandato lì. E prendete 20 danni a costituzione. Non lo dire che adesso è tutto. No, mi ha appena curato i livelli negativi. Cioè. È andato bassissimo, va. Va, che penso. Sono solo. Solo. 7 round. Ma oh, scherzo. Ah, ecco. Ma hai visto che di questo? Ah. Cioè, io stavo dicendo adesso come muoviamo. Va bene. Sordi per 7 round. E non lo sappiamo. Stannati, non lo sapete. Okay. Dov'è? Vabbè, io uso solo questi. E poi subite. 10, 12, 13. Ma che ti sto facendo, mamma mia. Non male. 12, 25, 26, 24. 30 danni da sonici. Tutti sì. Quindi noi cosa no. fanno sti no, 30 no. danni sonici? 30, sono 30 danni. 30 danni, sì, sì. Vabbè, tipo sono. C'è 40 danni così questo. Ma la mia vita aspiri. 30 danni ad aria tu. E poi si avvicina. Cancella il goblin. Ah, stato ah, perché è una standard action? Sì. Si avvicina di quanto? E va a portata di Baka. Quindi qua. No, scusa, cazzata, resta lì perché. Portata di, no. di Damasco. È già portata. Mi dispiace. Baka può caricare da lì. Baka è in fermo per X fila turni, quindi dubito che possa fare qualcosa. Baka. Che fermo, non ha detto niente su di me. Siamo stannati, detto, no? Ah, è vero. Siete sordi. Cosa comporta essere sordi? Quasi niente. Tranne per chi casta. Esatto, perché chi casta ha dei malus per quelli che hanno componenti verbali, tipo... Non è che ha dei malus, ha 20% di mischance. 20% di mischance. Vabbè, tanto non ne posso usare nessuno perché è immune al mondo, quindi... No, non è immune alla magia, cioè, spero sì, si può potrebbe buffare, queste cose qua. Però, vabbè. No, parlavo del fuoco, quelle cose lì. Ok, ah, dai. Quello sì. Va bene, non so cosa fare, ha finito. Farlo muovere... Tanto mi ci prende lì, no? E infatti, vi prende già lì, non ha molto senso. Vabbè, fa un passo a metro e mezzo avanti, perché se magari... Uno di voi solo un quadretto. Sposta... Sì. Sposta Sposta le linee, scusa. Sposta noi. Giusto, sposta voi, uguale. Minchia, vero. Che relatività. Gente che ha studiato. Cioè, hai pensato. No, non così tanto. Non posso mettere mezzo? Parte così Ah, no. Così no, sì, qua. Giusto, no, era giusto, era giusto. Da qua. Sì, era qua. Qua c'è... E BD. È stato bello. Sì. Finché è durato. Com'è la percentuale per uscire Bugbear? Tanto che... tocca a voi. Ah no, siete stannati. Dopo il Behemoth dove tocca ad Azalea e Avram e a Khan. Io sono dopo Avram. Che cioè, dopo il corvo, che magari è uguale, dai. Tanto fondamentalmente prima del Behemoth agiscono Eleni e Damasco. Voi invece agite dopo. Aspetta. Pessimo dietro. Sono troppo lontano. Ok, vabbè. Mi fai yes, non so. Mi avvicino di 30 piedi e comincio a fare Summon Monster. 8. No, chiede full round. Ah, giusto, vero. Allora mi teletrasporto con la mia Swift Hack, faccio Summon Monster e mentre casto posso teletrasportarmi con la mia Swift Action. Non puoi guardarti prima, cosa cambia? No, perché non posso prendere azioni come dimension. Ah, è... poi mi bloccherebbe l'incantesimo. Come Dimension Door. Ah, come Dimension Door. E allora no, sicuramente. No. Ok, sto fermo. Va bene. Khan. Però. Sì. Aspetta. La tua scimmia. Il mio goblin si avvicina di. Non mi fai haste. Di. Che sbaglio. Se vuole, se no. Si avvicina di. Fino a 60 piedi. Quindi tu ora sei più vicino anche. Tu non sei più a 120 piedi, ma sei a 110. Si avvicina a 30 piedi da voi, Sodoma. Muovendosi basta. Io sono a 90, tu sei a 110 adesso. Lui si è avvicinato. Anche se io mi sono messo troppo lontano. Che ne fai, East? Cioè, non mi sono messo troppo lontano. La scena è iniziata così. No, non faccio East. Ah, non ho capito, scusa. Ok. Com'è che si usava Venom? Perfect Strike? Io dico che uso Perfect Strike. E? Prima del tiro, sì. E ti due dadi anziché uno e prendi il migliore. Se hai usato Perfect Strike. Ma allora con questo nuovo modo di giocare è bravo. Sì, perché... no, in effetti... Quel cazzo. Quindi allora no. No, dice che non funziona l'abilità, mi pare. Quelle dove ti due volte ti dato solo su un attacco non funziona. Ma forse da un bonus... è vero, da un bonus Da un più due, mi da pare. Da un più due, vero. Una cosa. Da più due al tiro per colpire, nel tuo caso. Mi spiace, da solo quello. Vabbè, comunque... Buttalo via. Comunque, buttalo via, infatti. Cioè... Qualsiasi bonus è sempre ben accetto. E utilizziamo questo Perfect Strike. E si avvicina a 30 piedi da loro, anzi a 60 piedi da loro. E utilizzo anche un key point e attacco da loro o da loro goblin? Da loro. Okay. Attacco il behemoth direi. Vediamo un po' come va. 15 più 2 sono 17, più 19 sono 36. Ok, lo colpisci una volta. Una volta sola? Più 0. Più no, più, no, il più mio... uno, cioè due volte. Il mio... Più il key point, tre volte. Minchia. Tre volte? Quanto hai tirato? 15? Sì. Malino, cazzo. Minchia malino. Vabbè, già c'è alto, dai. Quanto sono come attacco? Io poco. Perché te... Ah, lui? Comunque tre attacchi fai. Gli fai. No, non per fare il conto. Perché il giusto... Uno, due... Con più volte. Quanto sono il primo attacco? Il primo attacco 19, però in realtà potrò sommare anche 22. Al 19, tiro okay. Colpire. Cioè perché ho avuto dei deadly aim. Non è male. Sì. Bene. 18 il più 36. 22. Sono 54. Io ne ho due se vuoi. Adesso dobbiamo uscire dallo stunning. 49. Vabbè, tanto adesso non potete fare nulla. Ok, no, però... Esatto, sono giusto, tu uno no. Io sommo 2, però sommo 2 al dado, nel senso che se faccio 17 entra nel range di critico. No. Ok. No. Solo un attacco. No, ma fatti 3 attacchi. Però secondo me puoi scegliere tipo di usare 6 perfect strike e tirare due volte e prendere il maggiore. Così. Cioè puoi usare tanti perfect strike quanti sono i tuoi attacchi, in quel modo decidere di ti prendere due volte e tirare il maggiore, se vuoi. Cioè, non so quanto sia ottimale, però puoi farlo, direi. Ok. Ah. Sta a te. Cioè, se ti dico puoi farlo, poi... Non so se sia utile, in effetti, però... Ok, fatemi vedere qualcos'altro. Lo comodi. No. Io ho fatto tutto quello che dovevo fare. Sì, sì. Vabbè, ho fatto un po'. Ovviamente Freedom of Movement non nega stun, vero? Ok, Azalea dice, te mette quella bestia, lancia un incantesimo, fai spellcraft. Ah, sì. E muore. No. 14. Sì. Ha lanciato anti-life shell. Si fa mangiare anche adesso. Vaffanculo! Cosa ha lanciato? Una barriera che tiene il Bemo lontano da lei. Cosa? Questo è il tuo. Questo modo di agire non è molto altruistico, Azalea. Tanto io continuo a concentrarmi. Lo dico da invisibile. Esatto. comodo con un incantesimo che dura a lungo. Anche l'FC mi pare dura. Spero. Si continua ad evocare. Da oggi round, nel caso. Comunque, evocavo i brachiosauri visto che mi hai detto che dovevo. Tu stai evocando i brachiosauri? Sì. Quanti? No, ok, tocca a voi tre. Cosa dobbiamo fare? Niente, no, perché siete Bacca dopo. Eh no, basta. Voi avete fatto, poi tocca a loro. No, Bacca gioca dopo il bevo. Bacca dice dopo. No, perché alla fine non arriva Filius. Filius, no, comunque dopo, è vero. Perché no, ho detto che ormai ritardavo, cioè anche se non fa. Ah, sì, non è vero, sono solo Damasco e Reni che... Altrimenti dovevo tirare il dado. Vabbè, tu allora tocca a te, quindi anche sei stannato. Sì, esatto. Tuttavia, aspettare un attimo, quindi niente. Vabbè, ve l'ho detto ormai. Ok, quindi tocca a Dereni. Che stannate. E Damasco, che sono stannate. Tocca a Behemoth. E tocca poi a Behemoth, che riversa la sua ira su Damasco, che gli ha fatto un sacco di danni. A me piace questa cosa, non so perché. Mi dispiace. meglio tu che io. Ci sono tante classi che possono fare. E cos'è che fa? Cosa gli fa? Cosa le fa? Vengo. Sarebbero 4 attacchi, 2 prima. Vabbè, comunque dai. Di là è bello, non preoccuparti. Vai tanto c'è il tipo di movimento, ragazzi, dai, su. Qual è il vostro problema? Vi puoi neanche mangiare, che la so. Ah, beh, forse quello è il problema. Non ringraziatemi. Ma cagare. Te lo dispello, eh? Cioè, veramente. Poi sei tu che vieni cagato da lui. Devi solo fare haste. Allora, tira una volta sola, cavolo che ansia. Oh. E non posso dire cosa. Prego, Behemoth! Non sono fissa! Se cibi! Faccio comparire un bavaglio. Come Silent Hill. 23 è possibile? Sì. Ma ci hanno un sale, no? Ok, il sale del pepe sviluppo. Esatto. Però non so, magari c'è Baca lì bello bello anche. Ecco. Non temo l'oltretomba. Stronzo di merda. Porterò con me se posso. Ma tanto di là stai serena, è bello. Ma voglio restare un corvo! L'ultimo attacco lo fa su Baca, ma c'è un motivo. Tanto due meno ci ha di lei, comunque. Quindi... Sì, io 18 adesso. Ok. Vabbè, iniziamo... Inizia cercando di... cioè, mordendoti... Riesci per un pelo a evitare il suo morso. Cioè, mi strappa le penne? O le mie penne? Guarda, che ti sto facendo? Che di sei di merda sono? Prendi solo 46 danni. 6, 10, no. Prendi solo 26, cioè. Grazie. Almeno di 6, comunque. Cambio di 6. Avete altri di 6? Sì. Lo sei intenzionato? No, scherzo, dai, tu vuoi? No, no. Guarda che moriamo se usi questi, eh. Già lei si è presa metà di 6, 5, 2. Comunque, ok, poi ti tira un'incornata. No, non devo tirare il divento, l'ha preso. La prende? Eh sì, ha tirato un dado solo, no? Quanto hai tirato? Un sacco. Pensavo, no, sta coprendo un teste volte. È facile colpire tante volte. Solo se sono i 33, tipo. 20, altri 29 danni. Infine ti dirà... Ma che sono 115? Cerca di schiacciarti sotto un suo piede. E muovi. Ma non devo tirare sto divento, continua a sbagliare. 30, no, adesso l'hai tirato! 60, ehi, io posso ritirare allora la prossima volta. Ma no, si tira una volta sola, cioè, ho colpito all'inizio. 56, 56, 55 danni. No, 85 danni. Ah, su, no, di più. Hai 30 punti. Sì, ma va, stai dicendo. Ah, già, c'erano anche i dadi sonori. Ormai, no! Ho tirato 7-8 su 2-8. Schiaccia. Quanti PF hai tu? 15 più 8? 115. 23. 23 danni. 23. E adesso devo tirarlo. Ah, in effetti avevo già tirato giusto. Perché ho fatto bene a tirare perché c'è il plus trip, però ho tirato un 1 sulla CMB. Perché avevo tirato uno su questo. L'ultimo attacco su Vaca. Hai visto che bravo, ho tirato un 1 che ho tirato per sbaglio. Cioè, come mai hai tirato? Cioè, mamma mia, perché prova a trippare anche te, chiaramente. Fai i conti. Confido molto. Fammi tutto perché non voglio dire. No, non c'entra niente. 29 più 26 fa 50. Tutte le combat manhour, no? Sì. Ah, sì, aspetta che guardo. Non è solo grapp? 85. 85. Sono quasi fuori, eh. 85 più 26. E lui non vede la magia, fa 100. Però lo stesso. 8. 108, 115. Ho già tirato 4 sui dadi. Va bene. Vai. 4 su quanti dadi? 4 più 8, 12. Come faccio a scappare? Sono ferma. 12 danni ti no, fa. No, dico la prossima. Non so. Quanti. E quanti... vediamo se. Sai quanti punti di dadi? Se si può, ti ha trippato perché ti ha tirato 20. 7. E tu hai già hai contato il secondo combat con lui o stai guardando altro? No, sto guardando questo. Allora. Se mi ha trippato, sono trippato il gatto. All combat maneuvers checks made to grapple automatically fail. Quindi no, quindi può trippare. The subject automatically succeeds on any combat maneuver check. Niente, può trippare. And escape artist made to escape a grapple. Ok, allora sei prono. Cosa? Sì. Tu hai il computer lì, Dodo? Sì. C'è l'attacco da prono. Non c'è? C'è attacco da cellulare. Carico. Ma l'attacco lì, tanto almeno mi serve. Tacolo, come fai a essere Tacolo? Perché l'ha sbilanciato questo calcione. Questo fa stomp. Come fa a cadere prono e non supino? Sì, ti è prono ed è prono, come deve cadere? Sicuro? La persona che cade da un calcio cade supino, non cade prono. Decido di cadere prono. Dai, dai. È prono, fine. Ma che... È la stessa cosa in questo gioco, sì. Si chiama a prono. Meccanica è la stessa cosa. Okay. Quanto dura lo stand? Tira un calcio col tallone, va bene? Ah, tira un calcio sulle gambe. Farlo sì. E lui cade davanti. Però. Sì. Va bene? Quanto dura lo stand? Chi aveva? Domande. Immaginatelo, te lo devo spiegare, c'è cioè, madonna. Ma non posso neanche fare a 9, 20. Sei pro. No, niente, ha tirato 20 più 49, quanto hai CMD? No, 36 mira. Ok. E dopo di lui tocca a Ereni. No. No, no, tocca a lui. Tocca a voi, giusto? Tocca a sì. Lui. Sì. La tizia. No, no, no, io sono l'ultimo. È uguale. Eh sì, ma io tanto via vicino, cioè. Io sono danzato. Ok, tocca a me? No, tu sei fuori, non sei più stannato. Va bene. Okay. Ah, quindi posso rialzarmi? Entri in riga? Subito. Da terra? Da terra? Ah! Ti alzi con qualche attacco d'opportunità alzandoti. Ah, ma perché abbiamo finito di essere... Lui sì. Il porto. Perché lui è stato... E colpisce una... un sacco. 40 passa. Ok. Direi che mi ha colpito. Per questo ti ho detto di non farti shield. Che non serviva. Però mi dava sicurezza. Sì, però tanto. Cosa aggiunge? 5 gira. 4. Ma posso 31 fare danni. Tipo da sola, colpo accurato, così. Da sola. Perché un round, però. No, per alzarsi cos'è? Un action. E non posso muovermi. No, puoi muoverti ancora, ma non puoi attaccare, poi se ti muovi. Ok. Sto fermo. E no, ti conviene andare lì, perché stai fermo. La prossima volta... Ti lo stesso. Ma se sei lì almeno fai un attacco per dire. Volevo usare. Volevo avere il più 2 della carica per quello quando l'attaccavo. Potrebbe essere un utile per colpirlo. Ah. Faceva alta. No. No, vabbè, dai, mi muovo lì direttamente. Vado lì vicino a lui. Per un più 2, non so. Vabbè, oddio, è vero, c'ha C'è alta. No. Dai, muovo vicino. Come vuoi tu? Comunque questo muovo. Turno te lo faccio ace adesso. E sono in ira. Cazzi tuoi. Vabbè. Non è che posso aspettare il signore, sennò muoio. Sì, è vero, hai ragione. Cioè, ho posticipato l'azione. Sono cazzi tuoi, non hai detto che hai fatto male. Hai detto che sono cazzi tuoi. Infatti, no. Quindi cosa devo fare? Mi muovo. Ah, che wipe, dai, c'ha su un po' di danno. Allora? E niente, devo passare perché non posso... Sei alzato e sei mosso. Non posso fare niente, no? No. Vai. Stai a Zalea. Allora, evoco... Evoco un dado da 3. C'ho la mia dama di più. Dice. Uno. Datemi un dado da 6. Vedete alle bene. Top. No, voglio tirare questo. Va bene. Eccolo. 2 più 2. Sei uscito uno, vedi? 3. 3 bralani. 3 brachiosauri, no bralani. Non confondiamo bra con bra. Che per ora non fanno nulla. Cioè, nel senso, perché si evocano lontano. Perché? No. Scusa, brasacchio. 3 brasacchi. Lo metti dove vuoi, quasi. Ma 25 è le close. 25 feet. Vabbè, tu sei. Quanto sei? 100, no? 100. Allora, sì, con voi. Fanno 60 piedi se caricano. Non basta. È vero, me l'aveva detto Danilo. 60 più 25. Più 25. Vabbè, arrivano qua comunque per dire. Ma è vero, ma hanno reach, ma per caricare devono fermarsi prima? Sì. Cioè, devono arrivare davanti a lui. Allora niente. Allora si spostano e basta. Perché hanno 30. Cioè, o caricano e colpiscono o niente. Beh, se muovo in linea retta, posso arrivare proprio da lui. Infatti. Cioè, l'idea è che fanno solo questo in questo round. Sì, sì. Cioè, in modo che si espongono, lui viene 4 3 brachiosauri, si prende male, stacca loro magari. Sì, intelligenza 3, un attacchino potrebbe fare i brachiosauri. No. Quanto sono... Scusa, è Gargantua in quadretto? Del resto Baka non ha ancora attaccato. Infatti, scusa. Gargantua è 4. 4 quadretti. Si mette così. Pa. L'altro si mette qua. Beh, però con attacchi di opportunità manette. Per arrivare qua, anche muovendosi sì, al massimo. Uno c'è perché per combattere Pexis ha una creatura colossal, cioè lo sei solo tu, Paizo, proprio. E sai che non si può prenderlo o no alla fine? Cos'è che è per combattere Pexis? Poi. No, che lui dice l'altro? La... Non sono 3 più 1? Ah, comunque quando compaiono... Quanto hanno di CA? 1 di 3 più 1. Lo becchi sicuro, li becchi sicuro. Ok. Scusa, ti volevo dire... Ah, ma l'ha già fatto contro Baka. Ok, niente. Vabbè, quando compaiono, prima di arrivare lì, io faccio haste, prendo anche Khan. E basta. Invece il mio goblin si avvicina di altri 30 piedi, è a raggio e fa haste su tutti loro. Con la ba- ah, aspetta, però lo fa, fa lì, lo fa familiar, così non ha miss chance della bacchetta. Mm-hmm. E basta. Cos'è che fa haste? Faccio il TS. Una shark memoria di... Faccio il TS. Fa il TS per haste. Uno più la CA e uno in più. Se non esce uno, lo passi. Agli attacchi. 6 più 11. Attacchi CA? 17. Anche proprio... 17 controlla. Ti prego, controlla. Quant'è la CA base delle bacchette? CD 20. CD 20. No, dicevo dell'incantesimo di terzo che c'è dentro. Perché cosa serve? Ah, è la statistica minima che serve per lanciarlo. Sì. Quindi 13 più 1 l'hai superato. 14. Sì, era 14 la CD. Cazzo. Vabbè, dai. Ci l'ho provato. Quindi non l'hai visto? No. Ma voi sì. Magia inutile. Tutti. Io. Compresi Bea, così auri che si beano del più. No, ma non è che mi salva vita, semplicemente salva okay. vita a voi. Ah no, scusa, tu... lo so. Se la faccio su di me. Basta. Avevi due attacchi. Stop. A chi tocca? Quanti posso? A me e a Zale. Vai via tu. Ah, io uso un altro Perfect Strike e un altro Key Point. Io mi avvicino. 30 piedi. E mi avvicino un pochino. Però 70. Tu solo fiancheggi vai furtivi. Eh? Lo fiancheggiai, facevi furtivi. Cioè, oddio, devi. Devi fare tutto il giro. No, no, ma poi. Tu vai col Ben, col Brachiosauro. Non riesci. No, perché c'è l'altro lì in mezzo. Tu devi avere l'altra parte. Uno dovrebbe stare qua. Ma se dovrebbe stare qua. Non vero, ma non ci arrivavano, per quello non li messi niente. Beh, ma lei non fa niente. Comunque sono a 90 piedi, mi avvicino a 70, a 80, 80. Mi avvicino giusto di poco. E lo attacco. Sì, ma secondo me è meglio se fai Dimension Dog, vai di qua sto giro. Così fiancheggiamo e prendiamo 4 con flank. 16 più 2 è 18, più 19, più 8 19, 38. 38, beh. Posso attaccare? Sempre tre volte, cioè tre colpi. Più c'ho Ace. In che senso? 39. Se vado qua con... Aspetta, no, questa, aspetta, aspetta, aspetta, quattro, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, calma, calma, calma. Proprio c'è scritto. Ho 38 ho fatto. Okay. Quante volte? Di base. Una. Più. Standard action, ma poi c'è scritto. Non puoi prendere point. Quella di Swift Fighting e Ace. Quindi 4 totale. 4 totale. Puoi fare una Swift prima. Un bellissimo. Cioè, quindi posso fare un attacco e poi teletrasportare? No. No, esatto. Puoi fare una prop. Quindi ho dato un buff, no? Quindi sì, Swift non ha così nulla. Con di 8. C'è un di 8. Cioè, quell'incantesimo di forza. Ma trovati, trovati. Posso fare tipo due incantesimi se utilizzo un punto? No, ok. 10, 18. 18 più 48. Ma prova e poi tu usare. 18 più 48 sono 64. No, sono tutti attivi. Prego. Dai, un po' di danni. Beh, vuol dire che posso fare 50 di danni sempre se faccio. Bravo. Sì. Non è già un più 3, esatto. Ok, tocca quindi Azalea. Azalea. E poi, fai qualcosa di utile stavolta. Maledetto. E lei? Si fuma una sigaretta. Si gira una sigaretta. No. Slow round. Perché se si accende una sigaretta giuro che... Arriva con la move action. No, aspetta. Beh, lei si era avvicinata quando ha detto che faceva l'antilash shell. Se la faccia di 30, si avvicina l'altra 30, dovrebbe essere qua più o meno. Circa 60 piedi. Eh sì, in totale 60, no? 50 piedi deve essere. Sì, 50 piedi. Cioè, nel senso, arriva qua. Sì, sì. Ma qui sono 10 quadretti. Casaccio, si è troppo vicino? Sì, un indietro. Ah, scusa. Ma dico, è troppo vicino? No, va bene, lì tanto è. Se sono portato a fare l'incantesimo. C'è qualcuno qua? No. Dipende da come chiami questi brachiosauri. Magari prendo. Non so se Andrea. Vabbè, a parte che non c'è il supporto per fare il muro di pietra, però vabbè. Alfonso e Armando. Lancia allora una forza del toro, una bear endurance, ovvero aumenta la costituzione di tutti di massa. Minchia, figo. Quindi sì? Guadagnate 2 per livello, cioè 30 PF. 30 PF tutti quanti. Che cos'è? TS? Che siano tutti danneggiati, non sempre sono temporanei, li avete guadagnati. Sempre Will? Per quanto? Per minuti. Minuti per livello. Quindi? Ah sì, sempre bacca come al solito. 16 più 21, 27 di ero sperata. Sì, sì. Anche questa l'abbiamo superata, quindi prendiamo 3. No, la vostra magia! Cioè, quello del Behemoth, no, quello non lo so. Purtroppo lei si basa su altro. Mi chiama. Scusa, cosa? Ma cosa? 30 PF cioè, positivi? Quanti no, però c'è troppo di vita. Quindi... Hai 30 PF di vita? Sì, no, ma nel senso sono durano o poi dopo un po'. Allora, come stanno? A 25 da di vita, sennò poteva tipo rievocarlo come più zombie. No? Che figo! Fino, però fino a massimi da di vita per caster level, quindi. Ah. Lei si basa su quello, però non c'è nessuno. Ah, ma scusami, ha curato 30 PF quindi? Sì. A tutti, però. Ah, curato. Praticamente curato. Cioè, però se no, era, se era già aggiungi, più... se sei full aggiungi. Beh, lui ma tu sei fuori, lontano, tu non fuori. Li prendi. Tu li aggiungi, però. No, lei no, io ero già... Ah, già è vero. Avevo 30 anni. Ok, anche tu ti eri assicurato 30 anni, Ma per buono poi dopo un po' scompaiono ste robe? No, no, vabbè, per buono, dura minuti, cioè. C'era tempo molto. Siete ancora, se la, tra minuti la battaglia non è finita perché siete morti. Certo. Beh, è finita comunque. Non di casa è finita. Non è nel modo in cui speravo. Beh, magari voi sopravvivete siete lontani. Certo, certo. Ok, e dopo il no, scusa, dopo Azalea tocca a voi, no? Sai, uno e due. Così. Sì. Non siete più stannate, quindi potete agire. Io faccio Dimension Door e metto qua per fiancheggiare con Bacca. E basta, non faccio più niente. E certo, perché Dimension Door richiede questo. Ah, però adesso c'è il bravissimo. Oh. Attenzione. Perfetto. Ma... ottima mossa. Palla. Se io faccio un critico su Kamenghetti, ma lei contrattacco. Ok, Damasco. E io mi sposto. Sai che c'è un indietro giusto per non prendere parte. E qua sei dentro. Sì, ma comunque mi prende lo stesso. Se tu vuoi fare il touch attack, sei dentro la tua portata, sicuramente. Fallo. Per forza, basta. Che devo fare? Fallo. E minace. E non posso. Magari va meno. Menace. L'unica vostra speranza è che vada meno. 19! 19! Minchia, che pelo per la minaccia di critico, cazzo. Vabbè, almeno l'hai colpito. Più 21. Sì, più tutte le volte. Ma sì, ma lei può fare anche due, Cioè, perché la cioè, taccia è bassissima. Vabbè, faccio tutti e 5 gli attacchi. Ma ti stanna prima, però. La butta giù prima, fa attacco d'opportunità. Sì, siamo nel nuovo round. Prima del primo attacco. Beh, ma non la mica... Tu dici che la trippa sull'attacco d'opportunità. Ma non mi sono spostato. No, non la trippa, ma la... Porta adesso, quanti PF ha? Ma no, l'ha colata di 30 comunque. C'è comunque 30 PF. Sì, sono 33. Ma non mi sono spostata. No, ma scusami, il Behemoth... Ma niente, ma il Behemoth non è ancora, Ciccio, Non è ancora su turno. Fa niente. E ogni round si... dal primo, non da... Sì, ti colpisce abbondantemente. Io glieli faccio i 10... attacchi. Aspetta, io glieli faccio gli 15, 21 danni. Ok, prima. Scusa, no, scusa, 31 danni. Ah, sei. Però vabbè, sei come prima. Ancora in vita. 6 punti vita. Vabbè, servita Zalea perché adesso sono tipo 60 danni. Minchia, ho un sacco di danni adesso. 5. Tutti? No, 6, c'è anche Ace adesso, no? Sì, esatto. Sì, 6. Anche poi. 26, 29, li volevi tutti attaccati? Li rifaccio tutti assieme? Sì, dai, dimmi i totali, ci sottraggo. No, non so, sì, no, c'è una domanda. Vabbè, dai, dici tu separati insieme, basta che lo faccio. 26. In punto posso fare un attacco. Un attimo. No. Ok, tu se fai una full round action 9. Puoi fare un incantesimo e tutti i tuoi attacchi. Quindi da lì, prossimo turno, puoi fare un incantesimo e tutti i tuoi attacchi. Okay. Quindi farei magari quello che... magari ti baffi se hai qualcosa. Volevo farmi io tipo colpo comunque... curato, quelle cose lì. Capisci? Sì, colpo curato ci sta, bravo, fai così. Ti dà più 2, Full round action, ti fai colpo accurato, ma ti dà più 20. Più 20. Al prossimo attacco. È per quello che volevo farlo. E poi così almeno il primo attacco colpisci sicuro. 36. Sì, fai così. 36. Anzi, no. Colpisci tutti. Funziona con questo. E sostanzialmente fai conto che abbiamo fatto poi. A Bunda Step per me è... Furious Focus, cioè che cosa usa la Bunda Step? Attacco perché non poteva essere... La Bunda Step è... Come Dimension Door, non fa niente. Cioè c'è un po' di... Ma magari c'è scritto però... Però ti muovi tipo a 400 piedi. Vabbè, a quel punto muovo. Però comunque è molto veloce almeno quello. Vai. Ti tocca, scusate. Ah, Damasco ha fatto un milione di danni. Tocca al Behemoth. Vai. Lo sei... I brachiosauri sono lì. Sono tre esseri gargantuan. Rispetto a ste pippe. Sì, però quello ha fatto più danni da Damasco comunque. Sì, però. Lì. Però cosa? Ma scusa, Damasco e Khan, tra l'altro. Khan non lo vede neanche, Damasco. Khan non lo vede neanche, lo vede come? 100 piedi. No, io sono a 80 piedi, stessa cosa. Lo vede comunque. Sì, lo vede, lo vede. Scusa, non è meno... No, per dire, non lo vede lontanissimo, non ci pensa. Vabbè, guarda lì quanta gente ha intorno, dai. Cosa fa, se ne va? Cioè, due persone hanno fatto danni, 1 e 2. Chi attacca? Una creatura stupida. Io dico 1 e 2. Non so. Anche io dico 1 e 2. Sì. Beh, c'è delle creature ostili. I brachiosauri giganti. Giganti. Penso che sia molto intimorito un colossa da dei brachiosauri. È intimorito dalla pistolina. Beh, visto che mi ha fatto tanti danni, sì. Mamma bella, ti mi ha ammalato. Sì, esatto, così. Va bene. Se li mangia i tuoi brachiosauri, semplicemente. Sono tipica cucina Behemoth, proprio. Tipico pasto, dieta del Behemoth. Esatto. Abbiamo detto che la dieta del Behemoth è quasi cosa. Quindi fa. Quindi, però, se usa gli attacchi a distanza, però che attacchi d'opportunità tutta quel miliardo di gente attorno. Sì, vieni qui. Non c'è qualcosa. Anche io lo aspetto perché vieni qui. Modificatore di intelligenza. Vieni qui che ti facciamo tanti bei danni. Da che mi serve. No, però è una standard action, quindi non è un attacco. Ma Pavino se vuoi. Ma può colpire anche me. Beh, con range increment prendendomelo due al tiro per colpire, sì. Però in effetti non è facile. Ma cosa devi fare? Lungo ancora? So, tanta... No, spara un sasso. 4 sassi. Ma 4 sassi? Dalla, in pratica, nella sua gola vedete che si... Che esce fuori un sasso così, no, e fa... Puff, e lo spara contro Khan. Oddio. Che cazzo dici? Una roccia gigante si dirige verso di te. Pensa che io quello prendo il talento. Tra, minchia. C'è mille di punti feriti. Che mi metteva di prendere il danni al posto di chi... Meno male che non l'ho preso. Piano. Meno male. I calcoli del Behemoth, poverino. Dove cazzo è? Comunque... Il combat, eccetera. Fortuna che ho preso... AC. 25 giusti, giusti. La dama reduction. Ma Ace l'hai calcolato? Ace l'hai calcolato? Winner Aced, più uno alla CA, non prende la sassata. Aspetta, ma devo fare un colpo solo, quindi, tra l'altro. Ciao, bello. Ciao, bello. Beh, però non era solo su di te, era un po' su tutti, Cioè, come un po' su tutti? Oh, hai detto no, sì, è vero, non era solo su tutti. Devi mirare la CA più alta. Dovevo dichiararlo prima, in effetti. Non devi mirare comunque la CA più alta. Hai detto che colpire a me? Sì, è vero, la CA più alta. Se decide di gestirli come vuole, basta. Ha fallito, non fa tipo il glancing blow. Glancing blow. Se ha fallito su di me. Ok, il sasso ti colpisce di striscio. Mi fa un graffio. Io dico Khan più a sinistra. Sento la forza dell'incantesimo di Abraham. Esatto. Beh, ma è un sasso, non è che ti fa un graffio, che tipo fa ma così è. Esatto, ti scortica tutta la testa. E subisci E subisci danni perché ti ha mancato di poco. Il minimo del dado, metà dei fissi. No, scusa, minimo del dado più i fissi diviso 2. Beh, 13. Il minimo del dado è 1. Certo, sempre 1, infatti. 13 danni. A meno che non sono 2 dadi. Sono i danni minimi diviso 2. Se sono 2 dadi? Non è, se sono 2, non è vero. No, due. Che palle, quindi ho sprecato così. Gio, tipo i miei brachiosauri fanno 4 dadi da 6. Quindi sono minimo 4. Ah, ok. Tutto questo perché la pace? Quanto c'hai di stress? Dai, rassegnati, rassegnati. Ace vince. Ma chi ha 5 io? Minchia, Ace qua è stato vitale. Vitale, chissà quanto cazzo faceva male. Sto cazzo di caso. Il glancing blow ha fatto 13 danni, non è pochissimo. Faceva ti faceva un bel dado, un bel dado più 20. Minimo 27. Infatti. Quindi non mi colpisce o mi colpisce? Un bel dado più. Scusa, cioè lui anche quando manca fa metà dei danni. Sono 6 dadi, sono 6 punti. Sì, manca se manca. E sei così ferita? Certo. Sì. Maledetto stronzo. È andata bene, cosa vuoi? Ti è andata proprio e bene. Sei presa con quello che lo colpì a distanza con un codardo. Ha lanciato meno male. Un sasso contro di lui e l'ha mancato di pochissimo. Ah, sai più anche te. Bene, sta come un codardo. A chi touch? Io tiro le frecce, devo andare in bocca. Sì, esattamente, perché hai un tretto per farlo. A chi tocca, dai. Dopo di lui tocca a voi. A me? Ok, provo ad attaccarlo con i 3 brachiosauri. Come prima cosa. Non è che con quel talento mi vado a cercare le botte. Quel talento mi sta guardando, c'ho nemici intorno. Vado, sommano 26. 19, 17 e 2. 19 e 17 colpiscono. Tipo quasi 40, 39. 26 più 19 fa 40. 43. Con 17. 17 e 43. Colpisci? 43 sì, colpisci. Ok. Allora fanno 4 dadi da 6 più... Era... Grazie. Su. 4 e 6 ognuno? Sì, 4 e 6 più 22. Ognuno. No, 21. Più 21. Ognuno? Minchia. Ma che anni fanno sti ciccioli? Sì, sono fanno un attacco solo però. Sì, però, cioè. È perché... Allora, sono 15 e 2, 17, più 22, 17 più 22, 39. Il primo. 39 il primo. Non male. Non male. Anche con gli altri devi farlo il tiro per colpire, non puoi farne uno per tutti. No, ne ho tirato, infatti, ho tirato 3 dadi. Ho tirato 3 volte. Ah, ok, scusa. Vabbè. Ho preso con... Aspetta, 39 il primo. 12, 15, 16, 39, meno 15, 24. 16 più 22 è 38. L'altro 38. Quindi 20. Io sono 3 di 6, eh. 4 di 6 sono carini. No, sono... è più 21, che carino. Cioè, infatti. Sai perché? Lo dico anche a te. Io mi avvicino di ulteriori 30 piedi. C'è l'uno. Ti passi il team, perché non credi, vedi? La tua fede è debole. 5, 4, 4. 2-2-2-2 vedi? Cavo mio. Più 5. Vedi? Lei crede. Sono ancora troppo lontano. Minchia, 15, 19 con 3 dadi da 6, 4 dadi da 6. Chissà questo a 2. Comunque a me è un CR tanto più alto di voi, eh. No? Fortino. Si inizia a far sentire le chi più basso. Più avanti, sì, sì. Cosa posso fare per salvare Damasco? Aspetta che abbiamo l'equipe di merda. Sì. Io lo ammazzo. Posso fare... Però poi ti farò giocare con l'equipe serie, così ti accorgerai la differenza. In città trovi. Guarda che tutte le volte che avete rischiato di morire è solo perché amate l'equipe vero. Cioè perché sì, la voglia. Cioè scherzi. Avevo un... Lui fa un'azione in meno praticamente. Mm. Cioè, un incantesimo in meno a round per questo fatto. Cosa? Sì. Avere una certa cintura. Cioè ha risolto col familiar, ma... Cioè, comunque... Ma comunque erano accumulabili. Accumulabili con nuovo sì? Con nuove regole, vabbè, la Swift diventa meno forte. Però io lui fa attacchi a distanza, quindi io volevo portarti all'insalvo. A me? A lei. Già abbastanza lontano. Uno fa attacchi a distanza. Tanta e se fai un volo forza. Comunque mi ha fatto male. Potrei fare un volo forza davanti a Damasco. E comunque tutte e 4 le pietre ti mancano, perché lui lancia 4 pietre con un colpo solo. Immagina questa questione dalla cui gola esce le coliche, cioè immagina quanto è grande questo, perché se io manco lo faccio danni e se lui manca lo fa non è vero, se tu manchi fai pochi danni, fai il grand single adesso, se manchi almeno 5 della tua CA fai comunque un pochino di danni, pochi, fa comunque tanti perché hai dei fissi assurdi. Io niente, faccio un fog cloud su Damasco in modo che sia svantaggioso per lui colpirla, perché ha il 20%, ha il 50% di miss. E posso farlo da lontano perché è molto distante. Quindi cerco di proteggerti inchiudendoti dentro una sfera di vapore fittissimo. Tu non lo vedi, ma lui non vede te. Le mie piume diventano tutte... Sei un fallo. Hai fatto il tuo, Damasco, ora stai al sicuro. C'è una sfera di visibilità, non ho capito. No. Fog Cloud, incantiamo il secondo livello che dà concealment. Dove la mia stinking cloud? Tocca a me. Sì, ma avete modificato l'azione in mille modi, quindi cioè poi lui ha cambiato idea. Non te ne sei segnato. Come no, io sono dopo di lui, ho detto. Cioè, comunque lascio dopo di lui, no? Ah, sì, giusto. Tu sei dopo. Cioè, ho fatto quello. Allora tocca a Baffa, direi. Terza volta diciamo così. Eh? Minchia, 20! Perché mi si muove? Mi conferma. Non mi scandalizzo neanche più. 5 più? Più. 22, 27, 27 più 4 di outflanking, hai chiuso il succa mi sto cazzo, non è confermato. Più haste? Non c'è. Non è confermato. Non c'è, aspetta. Ah, già vero, non hai haste. Non ce l'ho haste. Cosa vuoi aspettare? Hai fallito miseramente. Ah, non hai confermato, dai. Adesso però con la forza del pensiero con 20 gira tutti, quello. Suppongo. Non so, 20 più? Più 26. Cioè 22 46. Più 4 di Oxfam. 46. 46. Grazie, hai dato un in più da fare, guarda, giusto. Colpisci 3 volte. Qui da dimmi. Quindi tutte. 5 ace, eh? 5. 13. 15, 18, 18 più 93. Cosa? 32. 2 dadi a 4. 18 più 93. 18 più 93 fa 99 più 10, 109. 109. Okay. Però meno 60. Meno tutta no, la regola. 45 di damage reduction. Comunque muore. Bacca come al solito, dopo essere stato picchiato ed essere riuscito finalmente ad avvicinarsi, esatto, al tempo, dice TACI! L'ha sentato giustamente. Esatto. Ancora così che non ancora sentito. Sordo. Cioè, stai zitto! E gli dirò una... Tutto sto casino per così poco. Parlo con il mio goblin. E cade giù a terra. No, è lontano. Beh no, direi... Sì, no, è morto. Lo uccidi direttamente. Bene. Mi avvicino e dico, esco dall'invisibilità. Dico, ma vuoi sempre tutta l'attenzione per te, proprio quando i miei brachiosauri avevano ottenuto la sua attenzione. Mi lascio il critico sul brachiosauro. 16 più... Ah, critico, quindi confermato. Doppio critico. Doppio lo fa. Ah, 2, vai. Sì, lancio 2. Sono 8... Sfoga la saga. Sono 61 più 8. 69. Primo attacco, secondo attacco. Sono 6 più 61. Sono morti quanti? Sì, sono morti. Non lo so se sono morti. Adesso vediamo, visto che sai che fai il figo. Io ho fatto 120 danni circa. Sì, dalla morte. Sì, ma poi devi fare anche gli altri attacchi. Dalla nuvoletta di fumo che mi avvolge io. Vabbè, sì, così sì. Aiutatemi. Sì, guarda, sono 100, a 170 PF. Adesso ti curerei, ok? Ce n'erano tanti. Ho tenuto le penne. Quando erano raddoppiati non morivano più. Sono altri 7 più. Va bene, tirato giù un brachiosauro con una full round action. Bravo. C'è qualcun altro adesso? Io? Cioè non devo uccidere. Ci sono gli altri due. Attaccano! Ah, li dispello. Ah, come sei irascibile, Baka. Non c'è pietà per queste bestie inutili. Voi la vostra zozza magia. Bestie inutili, se non fosse per loro sarebbe ancora in piedi. Va bene, ci avviciniamo, vediamo se... Avevo ancora due attacchi. Il tizietto aveva detto che ci avrebbe dato la sua parola magica, esatto. Ma pare che si trovi nella pancia del Behemoth. Proviamo a tirarlo fuori. Ok. È stato digerito abbondantemente. Ok. Di lui non resta che cazzo rossa. Di apparato c'ha? Vabbè, quindi io sono... Pare che mentisse. 5 stomaci fa infetto. 5 stomaci? Seriamente? Infatti, potremmo mangiarne 5 alla volta, ma tutti finiamo movement. Sarebbe inutile, ormai i suoi succhi gastrici l'hanno distrutto. Non che sì, no. Poverino. C'è dietro di voi il gobbo. Ah. Stavo dicendo, appena che non fosse protetto magicamente, ma... Ok. Salve. Era solo un'illusione, era... No, non era un'illusione, veramente. Ah. Fai una prova di spell. Io mentre striscio fuori da questa cazzo di nube di fumo, 18. Magari qualcuno mi vede. 18 di dado più 26. Dai che esiste. Ehi, guardate che il papà è quello della che figo. Che ha usato anche il vostro. Facciamo notare che è stato bandito dalla campagna, clone. Davvero? Sì, perché è troppo forte. Ma perché è forte? Tanto che un alchimista dato clone è morto. Vabbè, io attacco. Ho visto oggi. Allora, 17. Fa niente, no, fa niente, però c'è. Uno a caso, chi è che c'è vicino a me? Io. Solo per cose fleurose. Infatti, ci sta benissimo. Io attacco Azalea. Guardate che il pavone. Cosa ha fatto? Ti ha salvato la vita! Azalea? Sì. Poverina. Cioè, è giunto a 30. Beh, ormai è immorta senza perché 30 di F. Non, non cominciamo a colpirci. Ci si picchia! La nostra attenzione... Al piccolo gobbo. Picchiamo il gobbo. A me che sto morendo, sono dentro una il tuo pagamento, di fumo. Clone. Lui era clone. Io sono quello vero. È il problema. È la stessa cosa. Io me ne intendo di queste cose. Sì. Replicare se stessi. Cioè, che avevamo pattuito, non mi ricordo. Parola per entrare nell'accesso sotto la banca. Fondi. Non sono fogne, sono un cunicolo, vabbè, cosa sto spiegando? Lo so, la parola d'ordine è fogne. Vogliamo una lezione di architettura, ma la parola? Parola è Mellon. Mellone. Io tra l'altro l'avevo detto, però, non sì, però non eravamo davanti alla banca. Dite la parola amici d'entrata. Vuoi fare una bella capita, dai. Sì, qui è una nota di demerito. Nota di demerito. E intanto striscio fuori. Il pavone eravamo indecisi con Abracadabra, ma alla fine ha vinto meglio. Ottima scelta. Ci siamo consultati con i nani. Ma io la sapevo quella mano. Esatto. I miei zii me ne parlavano. Va bene. Interessante parola, grazie. Ci ha dato quello che ci serviva. Sei contento che abbiamo ucciso il Behemoth? Sì, moltissimo. Perché me lo chiedi? Curiosità. Che cosa ci farai? Lo volevo solo vedere morto. Ho capito. Perché? Poi se puoi dirci il motivo? Mi incuriosisce. Possiamo portarlo a casa. Possiamo pasteggiare con il suo corpo. Ti serve il corpo? Non ti darà la rigenerazione infinita. Non mi ricordo benissimo perché. C'è solo che provo un grosso assio nei suoi confronti. Perché ti ha ucciso la famiglia. Non pare che può essere. Posso portarmi nel corpo? Puoi fare quello che vuoi con il suo cadavere. Abra. Possiamo portare il corpo? No. Perché... c'è la moquette in casa è sporca? Non lo so. Non so trovare una ragione per poi cui no, ma no. Poi è piccolo, non riesce a pulire ma tutto. Sarebbe ottimo come cane. Poi lo vuoi e non te ne occupi. Non gli dai da mangiare. Non lasci marcire in giardino. Lo lasci marcire in giardino. Non lo seppellisci. Come cane. Sarebbe mangiarlo. Non lo seppellisci come l'altro. Sarebbe mangiarlo. Poi non lo mangi in fretta, diventa buffo. Piuttosto che la carne umana solita, magari potrebbe essere più buona questo. Non farci perdere tempo. Azzalea potrebbe provare una ricetta. No, non so cucinare la carne umana. Ah, ups, non lo ecco. Siamo nauseati de per... Tutti vomitano. Dai, spezzavo. Ah, che battuta. Blef. Sbuca la casa almeno un per ricordo. Una zanna, un mi sasso. Pulisco la bocca dal vomito e dico bene, grazie piccolo aiutante di Babbo Natale, potente alchimista. Portiamo via un dente però, dai, un qualcosa, un souvenir. Porta quello che vuoi, basta che glielo stacchi. Abbiamo ucciso un Behemoth, non è bello portare a casa un ricordo. Stacca comunque, bravi, cioè, devo dire che avete vinto il premio finale, non me l'aspettavo. Facci un dono adesso. È la parola magica, qual è il dono? Ho una cintura magica. Ma non rutta niente questo Behemoth. Chiedere non costava niente. Possiamo... dei PF? No, non butta niente. Possiamo sono dei PF. Dei PF. Il gioco. Il corpo. I PF sono... sono... grande. Assorbiti. Sono assorbiti. Possiamo buttare... cioè ci fa livellare ogni tot. Possiamo buttare... mi sto facendo livellare molto più velocemente che se fosse fast. Non mi avvicinerei troppo allo gnomo, al gobbo con intenzioni malvagie. Hai visto di cosa è capace. Sì, di essere mangiato. Vabbè. Ci dirigiamo... tieni il cerotto, chi dice? No. Ci dirigiamo verso... deve essere curato il pavone. Quindi. La nostra meta... basta con sto pavone! Il piccione, scusami, va bene, dai. La nostra nuova meta è la banca. Non l'infermeria. Tutta la Gringot. Basta, chiudiamo qui e curiamo lei con delle cariche che vedremo la prossima volta, però la curiamo.